Benvenuti a tutti e quindi vi farei un applauso, diciamo, fatevi un applauso, che così. Allora, presento subito Claudia dietro di me. Lei, Giovanni ha il telefono che ci inquadra un po', però qui nello schermo c'è anche con noi Claudia Fabris, che insieme a Maurizio Lampi, che è seduto là, ma poi si alzerà in tutta la sua altezza, ci aiuteranno ad addentrarci in questa assemblea con la loro ricerca. Poi dirò due parole in più, però dico delle cose tecniche. Noi inizieremo con l'Agorà, quindi diciamo voi tutti donatori di spazio, artisti, cittadini coinvolti nel progetto, insieme anche agli esperti culturali che abbiamo invitato per la seconda parte di Texture, siamo e simpatizzanti e amici e staff e organizzazione e Ercole, il cane di Pino, tutti quanti, siamo qui tutti... È fondamentale, Ercole. Siamo qui tutti insieme per confrontarci sulle residenze artistiche che sono ad un punto di maturazione prima dell'apertura del lavoro al pubblico. Quindi, diciamo, tra di noi abbiamo gli artisti che hanno abitato per una decina di giorni con i nostri donatori di spazio e viceversa, chiaramente, e i giorni che arrivano, che stanno per arrivare da domani in poi, queste case accoglieranno gli spettatori e tutti noi e la comunità dell'Alto Fest, chiaramente. Quindi in questo primo tempo, durante l'Agorà, cercheremo, moderati da Maurizio e da Claudia, cercheremo di raccogliere quella che è stata la vostra esperienza di questi giorni. Nel secondo tempo c'è Texture, ormai una piattaforma di incontro e confronto che ci accompagna da più di 5 anni in Alto Fest, dove ci piace invitare delle voci speciali, degli operatori culturali, dei manager, dei direttori artistici che pensano la cultura in maniera ribelle. Ci piace molto quello che fanno, se no non li inviteremmo. E pensiamo che siano sguardi particolari da cui possiamo imparare, continuare ad imparare e che ci possono dare, come dire, nuove parole per queste esperienze che voi avete fatto. Sempre Maurizio e Claudia li inviteranno i nostri ospiti poi ad abitare più il centro, in un cerchio più piccolo, ma in questo cerchio più piccolo lasceremo un paio di posti sempre liberi, di modo che anche i donatori di spazio, i cittadini, tutti quelli presenti, gli artisti, possano continuare a partecipare alla conversazione. Quindi facciamo questo tentativo di unire queste due nature, un po' più, come dire, umana, un po' più tecnica, ma in realtà, insomma, sempre tutta passionale. L'ultima parte, la seconda parte di Texture, ha il titolo Il pane e le rose. Le economie ribelli che, insomma, Maurizio e Claudia hanno pensato per voi. L'ultima parte avremo sempre con Maurizio e Claudia ci guideranno nelle pratiche poetiche di congiunzione, cioè ovvero noi abbiamo un anno fa invitato Maurizio Alampi, che è un economista, e Claudia Fabris, che è una poetessa e performer, a incontrarsi sul tema delle economie generate da Alto Fest. Claudia è una performer poetessa che abita Alto Fest dalla prima edizione, quindi ha attraversato tutte le edizioni del Fest, quindi è un corpo poetico presente, insomma, importante. Maurizio ci ha incontrati anni fa e poi è ritornato a vivere Alto Fest l'anno scorso, in maniera molto intensa, ed è un anno che si incontrano e ragionano sulle economie generate da Alto Fest, e a partire da questo loro tema, da questo incontro, modereranno queste nostre discussioni e poi ci presenteranno un attraversamento estetico, sensibile, di questa ricerca, di cui non vi dico niente. accadrà meglio. Chiaramente è tutto un esperimento, come sempre in Alto Fest. Quindi io sono Anna Gesualdi, lì in fondo c'è Giovanni Trono, intorno a noi c'è tutto lo staff, grazie. E intorno a noi c'è tutto lo staff che continuerete a incontrare, che ci accompagnerà in tutti questi giorni. Durante nell'angolino lì, vedete, in quella postazione poetica nascosta dalle piante, c'è Ilaria Garzillo che tradurrà tutto quello che diremo in un'operazione di visual thinking. Cioè lei tradurrà in questo luogo immaginario, fatto dall'immagine, speriamo che adesso la luce un po' ci aiuti, ma se no troverete anche nei prossimi giorni i video, diciamo, le traduzioni in disegno di Ilaria, e saremo, come dire, cioè ci affideremo alla sua penna, ai suoi colori, e saremo immortalati per sempre in quel luogo immaginario. Ok, io non so se Giovanni vuole aggiungere qualcosa, ma penso di aver detto tutto. Se durante dovete andare in bagno, fatelo, questo è importantissimo. sentitevi liberi. Non dovete alzare la mano, sentitevi liberi, diciamo così. E a questo punto lascio Claudia, vi lascio la parola, ve la gestite voi. Maurizio ci farà con Claudia una breve introduzione di quello che è stata la ricerca fino ad ora e ci lancerà subito una domanda da porre poi ai nostri donatori di spazio e agli artisti che sono qui con noi. Salve a tutti. Allora, vorrei dire veramente pochissimo, perché un po' la nostra intenzione sarebbe davvero quella di parlare, discutere insieme. Scusate se faccio proprio subito una notazione personale, appunto perché mi sono sempre occupato di economia e manco totalmente di senso dell'orientamento. Quindi quando sono arrivato qua mi sono perso nelle stradine e mi sono accorto che qui c'è una piazzetta Giustino Fortunato, che a due passi da noi c'è il Museo Filangieri, del quale abbiamo avuto modo con Claudia di parlare molto, e anche il Museo Vico, cioè un filo che lega questo luogo, Napoli, davvero alla modernità, cioè ai problemi che abbiamo sotto gli occhi in questo momento. Solo una cosa su Giustino Fortunato mi riguarda personalmente, e se c'è una cosa che ho capito col corpo, come direbbe Claudia, in questi giorni, è che quello che tu riesci a incrociare, giusto Claudia? Giusto, giusto. Vedi, ci siamo anche scambiati le parole. Sì. Non avrei mai detto quello che ho capito col corpo fino a un mese fa. No, Giustino Fortunato è il padre del meridionalismo, no? Per dire una cosa economica. Anzi, è quello che ha inventato la parola, la definizione, questione meridionale, è il padre della questione meridionale. Dico una cosa che forse non è del tutto peregrina. Lui era un pessimista, nel senso che era uno studioso che dalla sua analisi ricavava che i problemi del Sud sono gravi, riguardano le che erano gravi già nell'Ottocento, riguardano le infrastrutture, il territorio, la propensione dei suoi abitanti, a volte bisogna riconoscerlo. E però questo lo aiutava a mettere in discussione un luogo comune. Il luogo comune, del quale forse qualcuno di voi ha sentito parlare, era che Napoli, ma poi per estensione tutto il Sud, fosse un paradiso abitato da diavoli. Ecco, lui metteva in discussione proprio questo, non è affatto un paradiso. Fece un viaggio che durò 6 mesi in tutto il territorio del regno e si rese conto che invece questo territorio, per certi versi anche il napoletano se non Napoli, invece è un territorio che ha delle enormi difficoltà logistiche. C'era la malaria, tutte le coste erano... Non era affatto un paradiso, bisognava combattere per riuscire a volte a sopravvivere, comunque, o a vivere dignitosamente. Ecco. Fu insultato, l'epiteto che gli fu attribuito, cioè col quale fu definito, era di apostolo del nulla. però lui credo che se ne infischiò abbondantemente, fu uno dei pochi intellettuali italiani che firmò il documento contro il regime fascista nel 23, che non mi sembra poco. Comunque, chiudo questa parentesi sui luoghi comuni, che però forse ci introducono proprio alla discussione che sarebbe bello fare insieme. Questa ricerca sull'economia, magari qualcuno di voi ha letto insomma un po' di cose del Foglio, del Festival, e il tutto è partito anche dalla prima discussione proprio dalla parola economia, no? Oikos nomos, casa, regole. Altofest è un evento che su queste due parole, che sono metafora, mito, quotidianità, e che sono adesso, loro lo hanno fatto, come dire, in tempi non sospetti, ma dopo la pandemia la casa è tornata a essere la protagonista delle nostre vite, no? A volte è diventata luogo per tutti, tra l'altro, per la prima volta qualcosa che ha impattato su tutto il mondo, no? E anche questa è, diciamo, una cosa molto interessante da un punto di vista economico. Per alcuni è stato un luogo di contenzione, perché ha sancito le differenze, cioè ha amplificato le differenze sociali, no? Per altri un rifugio, chi se lo poteva permettere. Insomma, è un luogo che è diventato ancora più importante dal punto di vista della riflessione, non solo economica. E le regole, no? Perché Altofest basa, almeno diciamo, questa è la mia impressione, ma ne abbiamo discusso per molto tempo anche con Claudia, il suo dispositivo, per usare una parola molto utilizzata in Altofest, proprio sulle regole, sul rispetto delle regole, anche sulla violazione delle regole e anche sui compromessi che inevitabilmente chiunque sia stato in questi giorni soggetto del dispositivo si è trovato ad affrontare. Le regole. Anche lì ci sono dei luoghi comuni. Napoli, il sud, a volte è considerato, no, un luogo dove le regole non vengono molto rispettate, o meglio, dove non ci sono regole. Ancora una volta faccio una notazione personale. Stamattina con Doris, che è mia moglie, abbiamo preso un caffè al bar. Lei voleva un caffè con un americano lungo, no? Cioè con un bicchierone d'acqua calda nel quale è seguita una discussione di 15 minuti sul sacrilegio che la sua richiesta, oggettivamente assurda, Doris, comunque su questo... E tra l'altro ha tirato fuori un nome, lì si è aperto un altro negoziato che poi ha prodotto un risultato che non ha in questo caso contentato nessuno. Spero che i risultati acquisiti invece nelle vostre esperienze abbiano prodotto più soddisfazione sia per gli artisti nelle loro performance che per i donatori di spazio. Comunque, diciamo, il tema delle regole è fondamentale anche in economia, naturalmente. Il lavoro che abbiamo fatto con Claudia ci ha consentito di fare una bella riflessione. E Claudia, dico solo questo, ma vediamo se tu sei d'accordo. Davvero ci siamo trovati, perché poi è stata una trappola anche per me. Dov'è Anna? Ecco, io dovevo essere l'estensore di una ricerca, poi alla fine invece mi sono trovato intrappolato, usiamo il termine giusto, nel meccanismo al quale ovviamente ho dovuto col quale ho dovuto confrontarmi. Però davvero no, è Shakespeare, certo, è sempre Shakespeare. No, è con Claudia davvero, però anticipo un'altra parola: l'intensità che si vive in Altofest ci ha fatto sentire per la prima volta nello stesso luogo. Poi dirai tu, Claudia, cioè non abbiamo seguito dei percorsi confrontandoci, no, proprio credo ci siamo, per usare una parola che forse non dovrei usare, contaminati, ma in maniera felice. Claudia, per me è stato felice. Mi fa piacere. Ok, quindi io passerei subito alla domanda che vorremmo rivolgere al donatore di spazio. Non mi fa parlare. Scusate, avevo capito male che tu ti volessi... Scusa, vai Claudia. No, dai, vi leggo solo una, Leggo solo una parola delle mie, perché è una parola che appunto essendo dal 2011 che frequento Alto Fest, e essendo questa cosa, ha ragione Maurizio, essendo che uno dopo 7 anni, 8 anni crede di poter, crede di sapere come funziona e quindi di essere in salvo, invece no, non mi è mai successo in tutte le volte, mai una volta. Quindi ogni volta mi metto alla prova, ogni volta devo contrattare i miei confini, ecco sì, che credo che sia quello che avete fatto anche voi in questi giorni. Allora vi leggo la mia definizione sottosale di confine. Da confini, sì, luogo in cui si finisce insieme. Sorprendentemente il confine non parla di separazione, ma rappresenta il momento della condivisione dei propri limiti. Il confine esiste dove noi sperimentiamo insieme la nostra fine, la nostra finanza. E questo lo lancio come cosa. Il confine è il limite della nostra forma. Ecco, in tutti questi anni, se c'è una cosa che ho fatto, è stata quella di contrattare i miei confini ad Alto Fest. E quindi adesso credo, e i confini si possono vedere da vari punti di vista. In questo caso lo decliniamo con una domanda economica, diciamo. I confini sono economici, però diciamo che quando abbiamo iniziato a fare la domanda, se ti dico economia, abbiamo fatto un po' di interviste, non a tutti, ma abbiamo fatto un po' di interviste e della comunità, all'interno della comunità, e alcuni ci hanno risposto, in relazione ad Alto Fest, ci guardavano e dicevano, ma in che senso? Poi alla fine dell'intervista invece gli era ben chiaro, insomma, alla fine del dialogo, quando hanno finito di tirar fuori l'esperienza e di riflettere su quello che avevano vissuto, era chiaro in che senso. Allora adesso la domanda, falla pure tu, visto che è una domanda prettamente economica, prego. Prego professore, iniziamo con i nostri avatar. Prego professore, grazie. Io sono la cameriera. Grazie cara. Prego. Allora, la domanda è proprio la domanda chiave, magari tra i presenti c'è qualcuno che ha fatto economia e quindi diciamo, scopro l'acqua calda, ma la domanda chiave dell'economia la questione chiave è quella della domanda e dell'offerta, no? Come si incontrano e quindi poi come determinano un prezzo. E quindi, tra l'altro per l'economia classica come per quella marxista, è proprio la domanda dell'economia. Allora, in questo senso vorremmo chiedere a tutti, donatori di spazio e artisti, cosa hanno offerto e cosa hanno domandato, ma proprio ragionando magari anche su un prima, cioè che idea avevano, cosa volevano domandare, cosa poi ho offerto e cosa poi nei fatti hanno domandato o offerto, è un dopo, cioè e quindi cosa hanno ricavato dalla loro offerta e dalla loro domanda, entrambi. Ma anche proprio, diciamo, volando basso, cioè che si tratti dello spostamento di un divano o dell'utilizzo dell'orologio della nonna, cose del genere, che a volte dicono anche molto di più di astrazioni, ma questo, diciamo, viene dall'esperienza. Allora, io una cosa tecnica, quando parlate presentatevi, così, perché non tutti ci conosciamo, diciamo, quindi presentatevi. E poi, non l'ho detto prima, lo dico adesso, parliamo piano, perché per aiutare, facilitare Rosa e tutte le persone, insomma, che ci stanno aiutando, ci aiuteranno a fare lo chouchoutage. Quindi teniamo presente che c'è qualcuno che sta traducendo, quindi non correte, ok? Allora, domanda e offerta in cui vi siete incontrati. Chi vuole iniziare? Ovviamente quella di Maurizio e Claudia. Sì, sì, è così. No, per primo. Ciao, sono Valeria. Io sono Manuel. Stiamo lavorando a Piazzetta Crociferi, a casa di Giuseppe e Cinzia. In realtà non ho avuto molto tempo di pensare. Però ho letto tanto Marx, io, tanto. Quindi posso fare dei ragionamenti così a pelle, mi sembra che il... Dai, una persona e poi dopo parlo io. Va bene? Vedi, è una regola. No? Anche questa è una regola. Ci penso un attimo. Ma non si era offerta. L'offerta. Non si era offerta. Non si era offerta, no, non si era offerta. Ah, ok, ok. Aspettiamo anche l'aereo. Vabbè, no, intanto io vedo già... Allora, vedo... Deborah, Dario e Amalia che sono in questa direttrice, in questa triangolazione, quindi necessariamente diciamo ma è un confronto, cioè senza, come dire, non ci ma va bene, tanto abbiamo detto vogliamo basso, io ti prendo in parola subito. Allora parto con quello che mi hanno donato, che è più facile. Mi hanno donato qualche ora a mare, un bagnetto, il mare di Napoli è spaventoso, quindi un po' di spavento, e, mi hanno donato una serie di aneddoti che proprio sono dentro il lavoro che sto facendo, quindi una serie di fortunate coincidenze o altro, sì, una serie di questioni davvero molto importanti proprio per lo sviluppo del mio lavoro da un punto di vista di scrittura e di pensiero. Non vi dico cosa, poi lo vedremo, no? E quindi queste le prime cose che mi vengono in mente. Offerta è più difficile. Cosa ho offerto? Perché all'inizio ho detto, cazzo, non ho offerto niente, mo che gli dico? Allora, però, no, ho rubato dei fiori per loro. Gelsolmini e Bougainville. Grande. E ho preparato delle lenticchie buone. E no. E dai, che dici? È abbastanza? Non direi altro. Potrei inventare delle cose, ma... Ah, lo tengo nel caso in cui debba difendermi da qualcosa. Lui non le assaggiate, il donatore di aneddoti non le assaggiate, lo scambio no. Ma si sente? Attaccarlo, ok. Donato, credo che in particolare lei, almeno per la mia percezione, mi abbia regalato la presenza di questi altri ospiti, animati e non, e che era simpatico, curioso vedere in casa, girarsi e trovarli seduti, perché lei ha degli strumenti di appoggio al suo spettacolo, anzi sono l'anima del suo spettacolo, e quindi diciamo che questa, per me, questa presenza delle marionette è stata un regalo, nel senso mi è piaciuta, mi ha riempito gli spazi e le giornate. E poi ci ha regalato, senza essere insomma retorica, però sicuramente la sua persona con la sua gentilezza, i suoi modi delicati, una convivenza insomma nella quale forse io ho chiesto a volte più di lei spazio e tempo. E fondamentalmente direi questo, per il fatto che poi ci siamo trovati a gestire una... Io e Dario siamo insieme da poco e lui convive con me in casa dove vivevo già io da veramente poco, però casa nostra era diventata nell'ultimo periodo effettivamente abitata fondamentalmente da noi, E voi anche il periodo della pandemia, delle poche uscite fatte successivamente, eccetera, era diventato un luogo un po' più fermo, più statico, e quindi la presenza di un'altra persona e dei suoi accompagnatori l'ha resa più dinamica, gli ha dato delle possibilità diverse di trasformazione. Che dici? Sì, sì. A cosa ho risposto? A cosa abbiamo detto? Offerto e donato? Posso aver detto entrambe le cose? Non devi stabilire tu. Sì. Sì, direi di sì. Ok. Vuoi aggiungere altro? No, no. È timido. Casomai in dinamica, cioè nel senso non è che parlate una volta e poi basta. Cioè nel senso, mano a mano che vi vengono in mente le cose, intervenite, è una discussione. Diciamo, noi abbiamo questo limite del microfono, che in realtà però ci aiuta a tenere un ordine, perché altrimenti Claudia non ci sente. Se parlassimo senza microfono, il microfono per lei sarebbe quel computer lontano. Quindi teniamo presente che parliamo al microfono anche per Claudia, soprattutto per lei. Grazie. E la radio? Perché siamo in radio, non ve l'avevo detto? Siamo in diretta. Oh, scusate. Allora, Lea, qua abbiamo il trittico. La famiglia Pezzella Barletti Bass, ce l'abbiamo tutta insieme qui, quindi vi lascerei domanda offerta, come dire. Allora, ci ha presentato, comunque io sono Lea Barletti. Sono Werner. Alessandro. E noi conviviamo da qualche giorno. E, vabbè, oltre che ovviamente l'ospitalità ci ha donato, ma soprattutto uno spazio mentale incredibile, perché siamo al Cavone, qualcuno mi corregga se dico sciocchezze, una zona di Napoli che non conoscevo affatto, e c'è questa via abbastanza stretta tra palazzi alti, abbastanza non cupa, però non luminosa, insomma, e noi siamo in alto, in alto, in alto. Lui abita al sesto piano, ma noi siamo al settimo, perché siamo sulla terrazza, in una stanza sulla terrazza. E ecco, lo spazio del pensiero è perché è un posto incredibile. La notte, ma anche il giorno, non si sente affatto il rumore, perché Napoli è bellissima, è faticosissima, soprattutto dal punto di vista acustico, secondo me. Cioè è una cosa che se uno non è abituato, dopo dice: ma perché sono così stanco? Cioè, sono così stanco perché non faccio altro che sentire, sentire, sentire. Uno quindi assorbe un sacco di informazioni, di emozioni, di rumori, di voci, di storie, di racconti, di aneddoti, di musica, di rumore, di qualsiasi cosa. E invece lì si sente Napoli, ma si sente come ovattata dall'alto, appunto, e poi ci sono invece i rumori dei gabbiani, che non sono affatto così poetici come animali. I gabbiani sono cattivissimi, uno ha cercato anche di mangiare il suo gatto, però dal punto di vista acustico sono meravigliosi. Cioè fanno, quindi la notte, tutta la notte, noi dormiamo praticamente quasi sempre sul terrazzo, perché è molto fresco e si sta bene, e quindi c'è questo, e il pensiero va tanto. Per quanto riguarda proprio direttamente la nostra performance, lo spettacolo che andremo a fare lì, ci ha colpito moltissimo la presenza di questo ex istituto, correggetemi, l'ex Filangeri, cioè l'ex carcere minorile, che è molto presente. E quindi il nostro spettacolo è una tragedia greca, non nel senso buono, nel senso che è una tragedia greca, nel senso che è Antigone, E quindi questa presenza oscura, in qualche modo, di questo luogo del potere e anche della coercizione, insomma, in cui erano chiusi i corpi degli adolescenti, è qualcosa che sì, ci ha dato qualcosa, ci dà sicuramente qualcosa. E poi niente, abbiamo pranzato insieme, abbiamo cucinato, anzi Werner ha cucinato gli spaghetti con i lupini e le telline, però solo una volta abbiamo mangiato insieme, perché Alessandro non si è occupato, no, due, è vero. E poi abbiamo spostato tutta la mobilia del terrazzo oggi per cercare di capire come fare, e poi Alessandro gli avevamo chiesto di partecipare alla performance, all'inizio ha detto no, invece lo farà. E quindi questa è la cosa più bella, insomma, sì, starà con noi in scena. Ecco, chi vuole parlare di voi due? Vabbè, no, a me ha fatto molto piacere incontrare loro due, perché insomma siete molto simpatici, ve l'ho detto. E lui subito si è inserito nell'economia locale del Cavone, quindi lo conoscono già tutti, il vinaio, il visciaiolo, il fruttivendolo. E quindi, no, poi... Come consumatore? No, non credo. Poi c'è il dilemma delle telline, non abbiamo capito se è stato un pacco del pescivendolo o se non siamo riusciti ad aprirle. Un problema di tecniche di cucina. No, la cosa divertente è che vabbè, ci siamo incrociati poco tra i miei impegni, insomma. Però poi oggi pomeriggio siamo guardati due minuti, abbiamo capito come fare il tutto, insomma, gli spettacoli, come organizzarci, di vari livelli. Abbiamo coinvolto anche un cingalese traslocatore che in qualche modo gestisce il cortile del mio palazzo. E niente, molto bello. Ecco, a me sembra di non aver donato ancora niente fino adesso, cioè solo ricevuto, insomma, ricevuto dal Cavone, da Alessandro, dalla casa, da tutto il quartiere, da tutti quelli con cui sono entrato in contatto. In realtà sto solo assorbendo cose. Va bene, abbiamo mangiato, ho cucinato una volta, le telline non si sono aperte, ma insomma, non è questa l'economia, insomma, penso, di cui parliamo. Niente, l'esperienza è bella, insomma, in effetti io, il Cavone, per me, sono entrato in contatto con tantissime realtà locali, insomma, cercato o non cercato, insomma, a me è successo, perché sono... Lea era malata adesso tutti questi giorni, quindi io ho fatto tutte le... Io sono andato a fare la spesa, a conoscere un po' il circondario. E boh, che dire, boh, non so, insomma, poi staremo noi a donare, poi da domani facciamo quello che sappiamo fare, insomma, diamo lo spettacolo, lo facciamo un po' nel cortile, anche quindi anche per quelli che abitano nel palazzo, vediamo che succede. No, abbiamo preparato sta cosa, quindi siamo curiosi. Mi accennavi che in effetti, scusa, ci sto pensando, dov'è Anna? Cioè, penso... No, possiamo, no, anche... No, perché parlavamo del fatto che tu mi dicevi, in effetti, che era già una performance pensata per uno spazio domestico, giusto? Mi chiedevo, sì. E tu hai altre esperienze precedenti, cosa ha cambiato questo? Che immagino, insomma... sia abbastanza generale, no? Come risultato dei due anni e mezzo di diciamo chiusura. Come sta? Cioè, manca in un certo senso, no? Il passaggio, la necessità del passaggio da una dimensione domestica a una, o meglio il contrario, no? da una cosa pensata per uno spazio canonico del teatro alla dimensione domestica. No, che effetto ti ha fatto invece questa volta trasferirlo in un'altra realtà intima? Cioè al Cavone in particolare adesso lì. Il Cavone è il quartiere? Sì, sì, sì. O nell'appartamento? No, no, perché la casa, cioè, quello che mi sa che ci ha colpito di più è il quartiere. Perché una casa è una casa alla fin fine. Ma il quartiere cambia molto. Cioè, la casa può essere di un tipo o di un altro, ma l'esperienza più o meno rimane quella. Insomma, stai con, stai con i conoscenti della casa o dentro un'area protetta, mentre stare lì in quel quartiere là. Infatti abbiamo ragionato un po' anche con Alessandro cosa fare, insomma abbiamo pensato pure di andare alla... all'Enoteca, appunto uno di questi posti che ho frequentato, se non farlo là, ma Anna ci ha detto no, no, assolutamente non è Alto Fest, bisogna stare dentro gli spazi privati, quindi abbiamo abbandonato questa ipotesi di contaminare il quartiere tout court, perché quel quartiere, cioè quell'Enoteca lì, sta proprio lì dove un po' il centro nevralgico, mi sembra, del quartiere con quella officina di moto là, insomma, dove stanno tutti, dove mi sono successe anche personalmente delle cose strane, insomma, non so. No. Questo meglio dirlo dopo. Che... Vabbè, no, niente scherzo. Di che, insomma, però situazioni che dici, beh, insomma, curiose, insomma, di dinamiche sociali che non conoscevo, ecco. E quindi un po' ci interessava, perché ci interessa in realtà, vabbè, ne parliamo dopo, ma. Okay. No, ci interessava la tragedia, questa qua, la cosa più bella è quando entriamo in contatto con qualcuno che altrimenti non incontreremmo, cioè ogni volta, no, che abbiamo fatto lo spettacolo in situazioni dove c'era gente che non ci sarebbe venuta a trovare a teatro, era più interessante che altrove. Per questo abbiamo un po' spinto anche a farlo non soltanto dentro l'appartamento, ma iniziare almeno sotto nel cortile, di entrare in contatto in qualche modo con il palazzo, che comunque è particolare, o di farlo sapere almeno anche, no, al circondario. Cioè, c'era l'Enoteca ieri sera, volevano tutti venire a vedere lo spettacolo. Tutti quanti, no, anch'io, poi non so chi verrà, ma comunque era perché bello. È necessaria anche solo la prenotazione. Okay. No. E quello ci interessa, insomma. Infatti vogliono venire, ma non c'è posto, quindi abbiamo detto è tutto esaurito, non c'è posto. Vabbè, ci Lea sono le liste qualcosa. D'attesa, si entra, poi chi vuole entrare... entra. No, comunque credo che questa soluzione che abbiamo pensato, poi non lo so se funzionerà, ma questo è appunto un esperimento, di iniziare nel cortillone, cioè il cortile. Però palazzo, non raccontiamola no. Troppo, restiamo su domande e offerte, scusate, hai ragione, perché se no, anche perché dobbiamo arrivare a texture, cioè, diciamo, sì, arriviamo, sì. Scusate se è proprio brutalmente. No, però se raccontiamo troppo, poi non vediamo... Non vediamo gli spettacoli, se ce lo raccontate è la fine, invece lo dobbiamo vedere. Sì, cerchiamo di restare, perché, non peraltro per i tempi, scusatemi, non, sarebbe bellissimo poi continuare a restare per tutto il tempo. Poi magari in seconda serata, battuta, possiamo continuare a discutere e anche per tutti i giorni a venire, se no diventa lunghissimo. Allora, io... quindi vorrei tornare a Valeria e Manuel a questo punto e vorrei dire che Cinzia e Giuseppe, che sono i loro ospiti, purtroppo non ci sono perché sono al lavoro. Purtroppo Cinzia e Giuseppe hanno una vita, lavorano dalla mattina alla notte, sì. E perché hanno un negozio e poi hanno un bar, ma sono con noi, fanno parte, come dire, di Alto Fest da sempre e gli dispiace sempre molto non essere qui con noi in questo momento, ma non riescono. Quindi magari voi fate anche un po' le veci di Cinzia, sì, e Giuseppe. Non so esattamente qual è la loro opinione, però ci siamo trovati molto bene con loro, sono molto accoglienti Non abbiamo dovuto contrattare nessun spostamento di divano, niente. Loro hanno detto sempre di sì a tutto. In realtà è una casa molto particolare, perché è una casa che era il showroom del loro negozio, quindi è piena di... Magari molti di voi hanno già visto altre performance in quella casa, no? Piena di lampadari appesi, che sono i lampadari che loro venderanno, molti oggetti, molti oggetti, molti mobili. È una casa molto piena, molto viva, ma allo stesso tempo, come dicevamo, sono oggetti che si vede che sono di passaggio, quindi non è, si sente la provvisorietà. È una casa ma non è una casa, è un luogo ma non è un non luogo, è intimo ma allo stesso tempo fa parte del, è un po' un'estensione del negozio, quindi è molto speciale come posto. Io penso che, allora, la prima settimana, noi siamo qua con la nostra figlia di 3 anni, che è importante dirlo, molto importante, perché è una presenza molto, adesso in questo momento non c'è, perché abbiamo un babysitter d'eccellenza che è mio padre, che è venuto apposta dalla Sardegna, meno male, però solo pochi giorni fa, quindi la prima settimana siamo stati sempre intensamente con lei e abbiamo vissuto soprattutto il quartiere, appunto, anche perché vabbè, il nostro pezzo ha tutta una vertente etnografica anche, quindi abbiamo registrato i suoni del quartiere, studiato i movimenti delle persone. Poi vabbè, non voglio fare spoiling, non dico mai più niente, però insomma è questo, quindi ci siamo vissuti molto il quartiere e siamo stati anche noi molto stancati dalla quantità di persone, di motorini, di suoni, di clacson. Non siamo abituati, noi viviamo in Portogallo, in un posto molto calmo, pieno di verde, dove i bambini possono correre da soli e te li puoi quasi dimenticare, poi tornano. Invece con nostra figlia è stato molto complicato col passeggino, evitare i motorini, fermarsi, proprio fisicamente, molto stancante. Quindi i primi giorni sono stati esaustivi, come si dice? Estenuanti, grazie. Dopodiché ci siamo un po' più rintanati nell'intimità della casa di Giuseppe e di Cinzia e abbiamo iniziato a lavorare. E penso che abbiamo iniziato a lavorare attivamente solo dal momento in cui Altofest è venuto e ci ha aiutato a spogliare un po' il luogo dagli oggetti. Quindi il dono che abbiamo ricevuto è stato ovviamente l'accoglienza, ovviamente la grande bontà di queste due persone, ma anche il fatto che ci hanno permesso di togliere. Sì, è stato questo. Noi non so cosa abbiamo dato, Manu ha fatto il baccalà portoghese, gli è piaciuto tanto. Per ora non abbiamo dato nulla, da domani penso che riusciremo a restituire, speriamo. O forse abbiamo dato, ma loro non ci sono, quindi possiamo dire che abbiamo dato, ma non... tanto loro non ci sono per dire di no. No, sono diventati molto amici di Camilla, che è arrivata nel frattempo. Ciao amore. Ciao Camilla. E passo il microfono a qualcun altro. Interessante questa cosa che sia... c'è questo sentimento che avete espresso tutti, no? Amalia, anche Werner, cioè che non sentite ancora di aver dato, cioè mi sembra che ci sia questo sentimento, vediamo il nostro economista poi come lo traduce, questo sentimento di sentirsi in debito, si chiamerebbe, se non sbaglio, eh? Se non sbaglio. Poi segna, poi anche tu Claudia, debito, ce l'hai la parola debito da qualche parte? Debito, sì, in banca. Vabbè, quello ovviamente, purtroppo. C'è Andrea, eccolo, è scomparso, era lì, dietro di me. Andrea, vai. Andrea Teliersi, prima avevamo Valeria Caboia e Manuel Pigneiro. Io ogni tanto ripeto i nomi perché così... Io sono Andrea Mocchisismondi e sono qui come Ateliersi con Fiorenza Menni. La nostra storia di, di cose che abbiamo ricevuto da, da Altofest è un romanzo. È la quarta volta che siamo qui e dal 2018 abbiamo avuto l'accoglienza nella, in fondo a Vico dei Tronari e abbiamo conosciuto Tina. Ed è stato un personaggio che è entrato all'interno della nostra storia personale, come famiglia, come persone, come esseri umani e anche nella nostra storia di creazione. Successivamente abbiamo incontrato, lavoravamo al Palazzo della Provincia, Antonio Prisco, che era un rider di Napoli, che particolarmente impegnato nella lotta per i rider, che poi è venuto a mancare, aveva 35 anni. E l'abbiamo conosciuto così a fondo che Valentina, la sua compagna, quando lui è venuto a mancare, si è trasferita a Bologna ed è una delle nostre più care amiche adesso a Bologna. Poi siamo stati a Matera e abbiamo conosciuto Mariolina, e Mariolina ci ha accolto in un modo tale per il quale per noi è un punto di riferimento nell'immaginario, è un personaggio del nostro romanzo familiare e creativo. E ieri è successa una cosa, dove a Giovanni, grazie al tanto lavoro, alla delicatezza e alla potenza del desiderio di apertura che ha Altofest, pian piano le varie case di Vicolo dei Tronari, Tina la conoscerete forse, è l'avamposto, colei che si è aperta per la prima volta, mentre tutte le case erano chiuse intorno. E ieri, dopo tanti giorni di lavoro, queste case si sono aperte, le persone sono uscite fuori e ci hanno accolto e hanno iniziato a raccontarci parti della loro vita più dura e parti delle loro gioie, della loro luce. E noi abbiamo ricevuto in tutti questi anni dei punti di riferimento dell'immaginario che hanno veramente spostato alcuni nostri modi di creare. E anche noi siamo venuti nel 2018 con nostro figlio la prima volta. Nostro figlio ha vissuto in casa di Tina, nostro figlio ha conosciuto Antonio, nostro figlio ha conosciuto Mariolina, ed è un luogo condiviso che abbiamo creato grazie a questa porosità, a questa permeabilità che è Altofest. Quello che noi abbiamo portato era il nostro linguaggio, la nostra struttura, quello che tutto noi facciamo, cioè il dispositivo. E questo è stato accolto come possibilità immaginativa. Le persone che ci hanno donato loro stesse hanno accolto in noi come stranieri la possibilità di rimettere in discussione le esistenze, è un parolone, però di rivedere le proprie esistenze da uno sguardo esterno. E quindi in maniera totalmente inaspettata ci hanno confidato cose che probabilmente non confidavano neanche le persone più vicine, perché lo straniero ti permette di riguardarti da fuori, no? E quindi credo che anche noi, ma questo poi l'abbiamo visto, perché poi la cosa bella è che continuano durante l'anno i rapporti con le persone di Altofest, anche noi siamo stati occasione di riguardarsi da un altro punto di vista per queste persone. E per noi appunto è un romanzo pieno di personaggi. Bello, grazie Andrea per questo. Non sono con noi la signora Tina e tutte le signore di Vico Tronari, è un luogo che conoscerete nei prossimi giorni, è un luogo molto particolare dove c'è, diciamo, una condizione di vita estrema, ma che accoglie Altofest ormai, possiamo dirlo, da circa 7 anni, in un luogo dove non entra praticamente nessuno sconosciuto a Napoli, nel cuore del quartiere Sanità, ma non, diciamo, quello che sta vivendo in qualche modo la sua gentrificazione. E ovviamente tutte queste signore vivono in case piccolissime che non possono accogliere gli artisti a dormire con loro, ma appunto gli artisti svolgono questa residenza, comunque stanno lì tutto il tempo e poi, diciamo, la notte vengono. È una condizione particolare dell'Altofest Vico Tronari, ma allo stesso tempo credo che lo rappresenti in tutte le sue declinazioni. Quindi vi invito nei prossimi giorni ad andare a trovare la signora Tina, Lelella, Antonietta e tante di loro che vi aspettano, perché aspettano o festival, lo aspettano, quindi vi aspettano, vi assicuro. Io volevo dare velocemente la parola a Chiara, perché Chiara è due cose in questo Altofest, ma anche nello scorso Altofest. Dico cose nel senso più grande della res proprio, diciamo così. Chiara è donatrice di spazio ma è anche donatrice di corpo, di abilità, di voce, di sapienza della danza e di tutto quello che è, donatrice di performance, diciamo, perché Chiara abita alla Sanità e l'anno scorso le abbiamo proposto un esperimento che sta ripetendo quest'anno. Uno degli artisti, l'anno scorso anche quest'anno non ha potuto raggiungerci, uno degli artisti internazionali per questioni pratiche, e abbiamo chiesto l'anno scorso e anche quest'anno a Chiara di ospitare nella sua casa e nel suo corpo, letteralmente, la performance selezionata da bando. Quindi l'anno scorso ha fatto questo esperimento con Charles Coroneo, che nel frattempo era in Nuova Zelanda, quindi per 15 giorni hanno fatto una residenza ibrida. Charles era collegato ogni giorno dei giorni di residenza dalla Nuova Zelanda, mentre quest'anno con Jotam Peled, che è, in questo momento si trova a Berlino, quindi in questi giorni, mentre tutti gli altri artisti abitavano le case, Jotam abitava in uno schermo, in uno Zoom, a casa di Chiara, ma Chiara abitava la performance di Jotam praticamente. Bellissimo. E abbiamo chiesto sia l'anno scorso che quest'anno che durante la performance si trovasse un modo per rendere presente, non in maniera registrata, quindi indifferita, ma presente anche in qualche modo, in qualche declinazione della presenza, anche Jotam, così come è stato per Charles l'anno scorso. Non sappiamo ancora cosa hanno combinato questi due, lo vedremo nei prossimi giorni, ma vorrei chiedere a Chiara, nella domanda di Maurizio e Claudia sulla domanda e offerta, cosa ti hai offerto, cosa ti sei offerta, cosa hai ricevuto da te, da Jotam, e cosa hai donato a te e a Jotam in questo triplo gioco di dono, di domanda e offerta? Allora, per me è stato molto interessante il fatto di ripetere ovviamente l'esperimento Figital, che mi piace molto come definizione, anche perché è stato completamente diverso, proprio il processo e l'operazione di collaborazione. Posso aggiungere che sia Chiara che Jotam sono due artisti che hanno già partecipato e abitato Altofest nella sua forma canonica, diciamo. Per noi era importantissimo che fossero due artisti che sapessero, conoscessero profondamente il dispositivo. E diciamo che in questo caso quello che ho ricevuto, così vado diretta, sennò mi perdo in 8.000 questioni, quello che ho ricevuto è stato sicuramente la possibilità di mettere a fuoco una questione che chiaramente il lavoro di Jotam parte da, diciamo, è un lavoro che parte da una condizione personale che il titolo è Emicrania, quindi da una condizione reale di vita, che è quello del fatto che lui vive l'emicrania ogni mese, e quindi da una condizione di crisi del corpo e di perdita di controllo, in qualche modo, di uno stato di coscienza regolare. Quindi questa cosa ha messo l'attenzione sul fatto del corpo preda di una forza, e quindi del corpo, diciamo, fuori controllo, quando qualcosa nella vita ti prende e tu non hai potere più sul tuo corpo. E quindi questo, diciamo, il discorso della perdita di controllo, del proprio controllo, quindi trovarsi nella condizione di non avere più, diciamo, chiaramente mi ha parlato molto in senso personale su un piano, quindi di dove è la mia emicrania, quindi mettere a fuoco questa questione, ovviamente ognuno ha la sua emicrania nella mia vita, ma anche ovviamente questo momento storico, no? Quindi c'è un discorso che in questo momento per me fa eco anche su un piano più collettivo, della crisi, quindi della malattia o dell'emicrania o di una forza che può essere, diciamolo anche così, il virus che arriva da fuori, se proprio, quindi che mette in crisi un sistema di controllo dato. Quindi è stato interessante, diciamo, condividere questo topic dopo un momento storico così, perché è veramente un topic che io sento molto. Quindi diciamo che più che dare corpo alla sua performance, in realtà noi abbiamo condiviso una questione, un topic, e io in qualche modo ho materializzato all'interno di una condizione che poi è casa mia, quindi la mia quotidianità, questa dimensione. E chiaramente, partendo dalla sua traduzione del suo topic di emicrania in parte performativa, quindi mantenendo gli elementi della performance, ma in realtà andando al cuore di quello che è il background personale che muove, è stato per me l'occasione di entrare e di materializzare all'interno della casa, quindi sicuramente di vivere la mia casa fuori dall'ordinario, quindi come spazio assolutamente diciamo cambiato dal mio ordine di quotidianità, e per me come artista è stato molto interessante, quindi in termini di installazione proprio, cioè di cambiare, di rendere quella casa lo spazio per la mia emicrania. E in termini quindi di scambio è stato molto diverso dal processo dell'anno scorso, perché c'è stato come qualcosa che arrivava nella mia casa come un input che io traducevo nella forma chiaramente della mia poetica, della mia casa, quindi all'interno della mia solitudine, perché poi quando uno soffre, diciamo che soffre solo, quindi c'è l'elemento diciamo di un tempo che è stato del processo solitario. E poi è stato interessante perché incontrare invece la sua traduzione nella sua casa, quindi di quello che lui, diciamo, in termini più performativi si è trovato a lavorare invece su una traduzione all'interno della sua casa, che era il luogo da cui partiva la sua performance, quindi in qualche modo andare all'origine, è stato molto interessante poi come questi due percorsi, che in realtà oggi abbiamo trovato, diciamo, abbiamo lavorato come su due binari paralleli, perché in realtà la cosa particolare è che non abbiamo avuto tanto tempo di contatto, diciamo, reale, però essendo il tema molto personale, in realtà c'è stato come un fuoco di intimità, possiamo dire, anche a distanza, quindi abbiamo lavorato più sulla scrittura, che ha prodotto internamente una direzione comune, che poi prenderà forma, diciamo, insieme. Però quello che io ho ricevuto è stato mettere a fuoco una questione, avere la possibilità della mia casa, di quello che credo lui abbia ricevuto, però parlo chiaramente, è di ritornare, diciamo, alla condizione che ha mosso la performance, quindi quel dietro le quinte, che è lo sceno anche, cioè il fuoriscena, che in qualche modo era una dimensione di vita personale reale che lui vive, che è fuoriscena, che è la sua, come quindi materializzarla all'interno del contesto della sua intimità, che è la sua casa. Quindi credo che ci sia stato proprio uno spostamento interessante, sia per lui come artista, dopo aver materializzato in termini performativi una questione, quindi riportarla e materializzarla all'interno della sua casa, per me invece estendere la mia emicrania all'interno, diciamo, del mio spazio domestico, quindi distorcendo la mia realtà quotidiana o facendola diventare altro, cioè la mia quotidianità si è completamente molto diverso dal processo dell'anno scorso, dove invece è stato più, diciamo, no, sempre nello stesso, diciamo, lo stesso meccanismo, lo stesso meccanismo. Ah, ok. Sì, questa volta la mia domanda anche rispetto, diciamo, questo rispetto all'esperimento, rispetto all'anno scorso, è stato come possiamo non creare in qualche modo una performance video con una performance reale? Cioè, come possiamo rendere il video, quindi la presenza video, un elemento di vita presente, cioè più presente possibile? E questo lo vediamo e questo dal può vivo. Essere o non può essere. e questo lo vediamo dal vivo, perché se no... No, perché io devo stare attenta a queste cose. Però non ti ha donato l'emicrania, questa è la domanda. Ti è venuta l'emicrania dopo aver fatto questo... Ecco, vedi? Dicevo, questo è Yotam dentro di me che inizia l'emicrania di Yotam che inizia a contagiare. Fantastico. Però sì, mi è venuta comunque l'emicrania. Allora, Giorgia, lo so che Giovanna non c'è perché ma questi donatori di spazio che lavorano, dico, ma un giorno di ferie se lo devono prendere. Ma magari mentre ci dici un paio di cose arriva, chissà. Attenzione. Spero che arrivi Giovanna, che nel frattempo direbbe qualcosa di molto più interessante. Ma non dobbiamo essere interessanti, dobbiamo essere concreti. No, allora, domanda offerta. Allora, io e Giovanna ci siamo offerte varie pizze. Allora, Giorgia Lolli, intanto. Sì, Giorgia Lolli, a casa Giovanna via De Marinis. Ci siamo offerte diverse pizze e in questo conoscerci, anche io ho avuto la possibilità, si sente? Ok, anche io ho avuto la possibilità di tornare un po' al principio primo di quando ho iniziato a scrivere questa performance, che è una performance nata durante il primo lockdown. Quindi è una cosa che è nata in casa, poi ho avuto la fortuna di entrare in teatro ed essere costruita dentro un teatro, e adesso è tornata in casa. E questo è stato un gran regalo che mi ha fatto, e in questo sicuramente la mia richiesta sì è stata lo spazio, la casa come dimensione di ritorno, per ripensare, però forse quello che le ho chiesto io, e questa è una cosa che non si può negoziare più che altro, è stata una grande complicità che abbiamo costruito insieme, e quindi io ho chiesto la possibilità di fare squadra, la possibilità di metterci in gioco e insieme, e non voglio dire troppo perché dopo sennò Anna mi... Brava Giorgia, brava, non ce lo dire se ci sei riuscita. Non lo dico, però le ho chiesto la possibilità di una conoscenza esperita insieme. È chiarissimo quello che hai detto. Va bene, ci vediamo domani. No, diciamolo, non diciamo questa cosa, però Giovanna cosa fa? Giovanna fa l'allenatrice di basket e tante altre cose, diciamo. Sì, così. Sì. Giovanna è una ragazza che fa un sacco di cose, è una persona molto dinamica, è allenatrice di basket, è la casa, vabbè, a parte ovviamente la passione del basket, ti rimanda un po' a... È una casa molto speciale, molto colorata di tutte le storie della sua vita. E quindi come la mia storia si poteva inserire in questa dinamica anche di convivenza, per me è stato molto interessante. E quindi appunto proviamo a raccontarci. Grazie. Io poi volevo dire, intanto che do il microfono a Wenzel e Federico, che sono da Pippo e Marina, che anche loro purtroppo stanno a lavoro, ma forse si materializzano. Volevo dire che nei prossimi giorni, durante il festival, c'è Radio Live. Radio Live è una radio digitale dove noi continueremo a conversare con gli artisti, con i donatori di spazio. Radio Live, il palinsesto di Radio Live è intessuto nel programma di Altofest, quindi sono tante finestre dove questi discorsi, che ci piace tanto parlare ad Altofest, in realtà noi poi tutto questo festival lo facciamo per parlare, non per vedere le performance. E quindi vi consiglio, appena potete, di diciamo, accendere Radio Live, perché lì troverete tutti gli approfondimenti, le provocazioni, le discussioni, tutti gli spazi di rischio che apriamo, sono tantissimi, tutte le trappole, diciamo, dell'Altofest. Wenzel e Federico sono a casa di Pippo e Marina. Föchstenschmidt. Oh, sì! Difficilissimo, lo diranno loro. Fex the Schwind. It's really hard. It's okay. Okay, it's I don't understand. Really, really hard. They understand Italian, capiscono l'italiano, perché Federico viene dall'Argentina e Wenzel ha studiato per un anno a Roma, però sentitevi comodi, feel comfortable also to switch to English if you want, okay. And, chi sarà? Pippo e Marina o Giovanna? abitano tra Berlino e Leipzig, Lipsia, e ci diranno qual è stato il dono e l'offerta, rispondendo a Maurizio. So I'm Federico. First of all, I found it very interesting to hear this question of being in depth with the space donors. And actually, I feel kind of relaxed now. I mean, released. To realize that actually there's been a bit of tension from my side to feel one that. One moment. Yes. Do you need the translation, maybe, someone of you? Yes. Yes. Quindi si sono sentiti subito rilassati in questa condizione. No, yeah, it was just to hear, to put in words this idea of like, because we've been receiving a lot. And we try to cook every day. Every day we say, we are going to cook. And then we arrive in the night and it's like, We don't manage, and then we get dinner again from there, and they tell us, no, but you're here to perform, you're not here to cook, and so... Allora, hanno tentato disperatamente di offrire tutto quello che potevano offrire, di offrirsi di cucinare, offrirsi di fare qualsiasi cosa, ma Pippo e Maria hanno detto, no, voi siete qui per fare la performance. Che mi sembra un po', come dire, tedesco, come atteggiamento. Era per sé... to feel you more comfortable, maybe. So I'm joking, of course. Loro hanno tentato disperatamente di offrire qualunque cosa di cucinare, ma Pippo e Marina hanno rifiutato sempre. Yeah, and we also find ourselves that we don't have the time because we're also working quite a lot to adapt the piece to the space. We have received a lot from people of Marina. We have received a beautiful guide in the city with people. Wenzel likes a lot of architecture, so it was like perfect. We are in the house of an architect, and we have received, of course, also this just going every day the stairs of Palazzo San Felice. Allora, loro hanno ricevuto anche, diciamo, delle guide personali da Pippo, che li ha accompagnati per le vie della città di Napoli. Pippo è un architetto e Wenzel ama molto l'architettura, quindi si è ritrovato quasi magicamente in questa casa di un architetto e quindi sono molto felici per questo. What we have received, yeah, they also think they have taken it as a task for themselves to show us the Napolitanian gastronomy. So we have been pizza, baba. So every day there is something like different going on. So li hanno visti un po' secchi, hanno pensato di farli mangiare tanto. Questa è la libera traduzione. We also have received help with translating our piece into Italian, not completely, but we have now quite a lot of Italian in the piece. And it's been very interesting because people in Marina didn't see our piece previously, but they are getting to know. Yeah. They actively decided not to watch it before. They had the possibility, but they didn't watch any, not the video of the full performance, not even the trailer. Addirittura Pippo e Marina li hanno aiutati a tradurre delle parti della loro performance in italiano, e quando c'è stata la possibilità per loro di vedere il trailer o addirittura il video dell'intera performance, hanno rifiutato per non scombinarsi la sorpresa. So it is interesting that they receive our performance in little doses. Sometimes they see us rehearsing a little scene, sometimes they help us translating something. So sometimes they are asked, can we move this, can we change this? We try not to change so much. But I find it interesting to think how they are actually getting another performance, but step by step. Quindi loro hanno avuto la possibilità, chiaramente abitando insieme, di seguire a piccoli passi l'evoluzione del loro lavoro in casa. Quindi hanno assunto come delle pillole, diciamo, di performance, in una maniera omeopatica, suggerisce Lea. E quindi loro si domandano chissà che idea si sono fatti adesso di questa performance e come l'affronteranno nella loro compiutezza. Yeah, I think that's all we're saying for now. Wonderful. Thank you very much. Really, thank you very much. Penso, ma aiutatemi se sbaglio, che adesso arriva anche il tramonto, penso che abbiamo detto tutti, o quasi, tranne quello che sto per dire. Abbiamo condiviso un po' tutte le esperienze degli artisti, no? Avete parlato tutti, quelli presenti. Anna, scusami. Sì, vai Claudia. Io volevo chiedere a Pina, perché ha vissuto una situazione particolare. Esatto, infatti era esattamente quello che stavo per dire. Dai. Quindi mi aiuta allora direttamente Claudia. Però alla fine che cosa abbiamo? Abbiamo un'altra residenza speciale, che è quella di Pina. Perché Pina, che è seduta lì con Ercole, è stata donatrice di spazio nell'Alto Fest, ma quest'anno purtroppo dovrà andare via, diciamo, gli ultimi due giorni, quindi non ha potuto accogliere un artista nella sua casa quest'anno, perché si sarebbe persa l'intero processo, diciamo, sì. Così. E quindi le abbiamo proposto di accogliere in residenza l'esperimento di congiunzione, cioè Maurizio e Claudia. Quindi, diciamo, ecco. Perché loro, Maurizio e Claudia, sono in residenza, cioè questa è l'ultima parte della loro residenza. E ma quindi, bella tosta anche. Esatto, e quindi ovviamente Claudia poi non è potuta essere con noi fisicamente, ma in realtà c'è abitato sicuramente. Cioè, sono stata tanto, sì. Ho veramente abitato, e questo è strano, la stanza della libreria l'ho veramente abitata. Sì, e quindi sì. Pina, com'è stata questa offerta, questa domanda, questo dare e avere, com'è? Vabbè, io rispondo proprio da scolaretta, no? Cioè, ho offerto spazio, ho offerto tempo, e ho ricevuto gratificazioni, ho ricevuto stimoli tantissimi. Sembrava un cenacolo intellettuale, io però sto ai gradini bassi. Loro sono vabbè, molto interessanti. E, a proposito, non conoscevo Claudia, in effetti, perché Altofest ho iniziato nel 2019, non c'era Claudia, quindi quest'anno ho conosciuto Claudia, e, mi ha affascinato la sua voce e, la sua, e le sue idee vulcaniche. E, ho ricevuto... appunto, cioè la compagnia soprattutto di Maurizio, condivisione di ricordi, di famiglia, così è stato, come due vecchi amici che si raccontano anche fatti del passato. Neanche tanto vecchi poi, cioè. Sì, neanche tanto vecchi. E quello che mi è piaciuto è che attraverso i libri si stabilivano dei rapporti lontani. Lui ha trovato dei libri che sono piaciuti a Doris, Doris e quindi questi libri letti da me, letti da Doris, hanno costituito un filo con lei che non c'era e che poi è arrivata. Tutto qui è arricchimento umano. Voglio solo aggiungere che penso una delle esperienze più belle che si possono fare è quella a Vico Tronari, perché come parlava prima Andrea, sì. Proprio perché sono persone che non ci somigliano, penso, sono molto diversi. Ticali veramente in una realtà, a volte gli antipodi anche dei tuoi riferimenti. Io ho conosciuto Tina e quindi insomma posso affermarlo che è veramente forte insomma, interagire con Tina. Poi, niente, veramente, sembrava appunto un cenacolo, mi viene da giocare con le parole, Claudia, quando uno fa o brainstorming, no? Allora io accorciavo e dicevo brain, capito? Inteso proprio o brain, come cervello. Cervello. E poi alla fine, insomma, mi hanno offerto anche una buona pizza, proprio, cioè, Doris e Maurizio. Vabbè, io ho offerto qualche piatto, insomma, spero se che sia piaciuto. Vabbè, questo è tutto, non ho altro da aggiungere. Ma è stata, insomma, mi è piaciuta, insomma, perché appunto non c'era il tipico performer e forse abbiamo avuto occasione di parlare molto di più, di trovare molti argomenti in comune. Mi sono anche meravigliata, Claudio, che tu abbia trovato spunto da certi miei discorsi. Così. Molto, molto spunto. Mi sono meravigliata, va bene, però mi prendo questa meraviglia. Grazie. Grazie a tutti e due e pure a Doris. Grazie a te. Io intanto voglio dire, non come, diciamo, coordinatore di questa discussione, ma come ospite della residenza, chiamiamola così, che è stata davvero molto interessante come esperienza. Non solo perché Pina è una persona ricca di suo e di storie, per cui le storie si sono incrociate, ma anche perché per me è stato un po' un esperimento. Lei faceva da diaframma in molte circostanze tra me e Claudia, e questo era molto interessante. Forse addirittura ha fatto da amplificatore del contatto che appunto avveniva via schermo. Ci sto ancora riflettendo, tra l'altro. Più in generale, vabbè, vorrei dire, a parte che l'elemento gastronomico mi sembra fondamentale, come un filo conduttore, che storicamente è un collante tra i popoli oltre che tra le persone. Lei mi ha cucinato delle seppie coi piselli che resteranno nella mia memoria. E poi più in generale, insomma, non vorrei sulle cose molto interessanti che sono uscite fare teoria, perché però, insomma, solo un paio di cose volevo dire, che molto spesso le cose che doniamo non le vediamo. E quindi addirittura quando si parla di offerta di qualcosa che non ha riguardato strettamente dei beni, non l'abbiamo registrata come un'offerta economica. Aspettiamo gli aerei, lasciamo gli aerei passare, che sembra il nome di un album. Perché ovviamente, insomma, il tema del dono è molto presente in Alto Fest. Vabbè, non voglio neanche anticipare una delle cose su cui abbiamo riflettuto, in che forma è presente. Tra l'altro pensavo adesso, sentendo parlare tutti, che nella maggior parte dei casi si tratta di persone che l'esperienza l'avevano già vissuta e che quindi è ovvio che non nella totalità dei casi, credo, non avevano una resistenza rispetto all'incontro, no? Che invece è più normale che ci sia quando erano aperti al dono, diciamo, anzi erano già dei donanti prima dell'incontro. E poi il discorso della comunità, naturalmente, no? Mi ha molto colpito quello che diceva Werner, non lo so se anche questo uno dei possibili effetti appunto dei due anni, cioè che come tutti i processi ha sempre due facce, no? Cioè, spesso, perché si vede, una difficoltà a uscire dal guscio nel quale ci si è richiusi, ma c'è nello stesso tempo anche l'aspirazione a far parte di una famiglia più ampia, no? Famiglia estesa, anzi, economisti africani usano questa definizione per proporre una nuova forma di convivenza. Vabbè, non volevo dire altro al momento. No, in realtà tu ci dai appunto lo spunto per introdurre questa seconda parte. Io, Anna, scusa, posso dire? Ho proprio una frase che ho pensato stanotte, fra l'altro, di congiunzione tra le due parti. Cioè, sì. Tu introducila, poi io questa frase che mi piace, perché sembra, è come se fosse proprio una cucitura. Introduci la seconda parte e poi io dico questa, oppure la dico questa frase e poi tu introduci la seconda parte. Perché pensavo, ieri avevo parlato con Loretta ragionando su questa conversazione, e pensavo Loretta è la drammaturga di Alto Fest e là dietro di voi col vestito verde, la signorina col vestito verde. Ecco. E pensavamo appunto come cucire le due parti. A un certo punto mi è uscita questa frase che mi sembra proprio concreta e precisa: hanno condiviso il pane per avere le rose. Cioè tutte le persone che sono lì adesso hanno condiviso il pane per avere le rose. Questa era la frase. Adesso puoi partire con la migliore introduzione. Claudia non poteva farcela a questa seconda parte, che è Texture. Passiamo dall'Agorà a Texture. Non cambia nulla in realtà, perché è sempre la nostra assemblea, soltanto che abbiamo invitato delle voci particolari che, come avevo detto prima, e, io magari brevemente dico i loro nomi, però poi lascerei a loro, quando parlano, così una linea che li rappresenta, insomma lascio a loro dire quello che secondo loro è la loro condizione attuale, la loro, come dire, il loro luogo. Allora, abbiamo con noi Roberta Nicolai. Parto dalla parte femminile, perché ovviamente, per ovvie ragioni, parto da Roberta Nicolai, che è tante cose, tra le tante, direttrice artistica e ideatrice chiaramente di Teatri di Vetro, e che è un festival che si fa da tanto tempo a Roma, Poi io, se dico delle balzanate, ovviamente correggetemi, perché qui non è che stiamo in una conferenza, siamo in famiglia, quindi tutti possiamo sbagliare. E Roberta da tanti anni fa questo festival che si è trasformato nel tempo. Io l'ho seguito dai nostri primi movimenti, quando eravamo una giovanissima compagnia in cerca di date, diciamo così. E si è trasformato e adesso non è solo un festival, è un luogo di contaminazione, discussione pratica e teorica che ha vari appuntamenti ed è declinato in tanti formati, tra cui uno bellissimo che è una newsletter, ma in realtà non è una newsletter, poi ci dirai. Dico proprio cose puntualissime, poi appunto vi lascio a voi invece allargarvi sulle cose che fate. Se vi consiglio di seguire, andare a Roma a vedere le cose belle che fa e non solo quelle. E poi abbiamo adesso qua è difficilissimo, ma lo farei dire a lei perché non voglio sbagliare. I don't want to get wrong, I don't want to say in the wrong way your name, so Shani, but we have to wait to fly the planes. Sorry. Okay. Just my name, Shani. Shani? Yeah. Okay, super. Shani. Shani is a cultural manager and a professional and is many, many things, and she will say. But she's a founder of Viva la Vida, that is an organization that gets together art and community. And this meeting, this encounter is based on the strength of art to open new sight, a new way to see the daily life of people. So really quite close to Altofest in the principle. Is the reason why you are here, of course. And then you will see more, of course, of your many projects. Continuando, saltando Maurizio Lampi a pie pari, che non è facile saltarlo perché è lungo, proprio lungo, abbiamo Michele Mele, che per tanti, diciamo, gli artisti non ha, come dire, quasi non c'è bisogno di presentazioni. Insomma, Michele... abbiamo la fortuna di averlo a Napoli, non capita spesso che abbiamo a Napoli qualcuno che invece si muove a livello internazionale. E Michele è promoter, organizzatore, si occupa, si prende cura di tanti artisti, tra cui gli Anagor e per tanto tempo la Compagnia Stabile Mobile di Latella, ma poi in realtà adesso sta curando tantissimi progetti, la piattaforma, la Need Platform, insomma tante belle cose che dirà anche lui e che insomma seguiremo con piacere. E non c'è bisogno di saltare, ma passo accanto a Michele, Attilio Nicoli Cristiani. Io ti devo chiedere, ma Nicoli o Nicoli? Nicoli, l'ho detta bene, perché non te l'ho mai chiesto. Ecco, Attilio Nicoli Cristiani, che insieme ad Alessandra De Santis è direttore, co-direttore di Danae Festival, ma anche della Compagnia delle Moire. Quindi nascono come Compagnia delle Moire e poi danno vita a Danae Festival, che è un festival che si tiene a Milano da tantissimi anni, anche quello che raccoglie le espressioni più sperimentali, diciamo, della performing art nazionale e internazionale. E poi Attilio, anche lui, ci dirà tante altre belle cose. A seguire abbiamo Chris Torch. Anche Chris ha una lunghissima storia, veramente lunga. Attualmente lo ritroviamo a prendersi cura di progetti internazionali di grande scala. Tra le ultime cose è stato a dirigere, diciamo, la direzione artistica di Mishwara 2021, che ha abbandonato, diciamo, per tristi ragioni che non diciamo, però insomma, poi però ecco Chris, buone ragioni. Chris è un uomo di teatro, soprattutto posso dirlo, è un uomo di teatro che abita il teatro da tanti anni in tante nazioni e che oggi, attraverso la cura di tanti progetti internazionali, dona, diciamo, il suo sguardo e la sua esperienza nei territori che abita. Non so se ho detto delle cavolate, se le ho dette lo direte tranquillamente, però lascio qui allora a Maurizio porre questa questione, che è appunto il pane e le rose, e che vi prego di riferire a quello che è la vostra esperienza, che ha questo sottotitolo, Economie ribelli. Maurizio prima parlava del dono, no? Un po' come se il dono oggi potesse essere una ribellione in qualche modo, no? In questa società che ci chiede costantemente di sottoporci alla legge della domanda e dell'offerta. Prima Maurizio, parlando con tutti voi, vi ha posto questa questione anche in maniera un po' provocatoria, no? E tutti noi in realtà abbiamo subito risposto domanda-offerta, a cosa ho donato, cosa ho offerto, senza magari considerare che potevamo anche scappare da questa domanda, potevamo anche ribellarci. Ecco, io vi invito anche a ribellarvi alle domande che vi fanno, perché questo è veramente uno spazio di discussione libero, cioè sentitevi liberi di ribellarvi alle questioni anche che non vi piacciono. Tra l'altro anche qui volevo solo fare il pane e le rose, a parte che tante cose, no? Grazie. Ne parlava Marx, non solo lui, poi è diventato uno slogan delle manifestazioni delle operaie tessili agli inizi del Novecento, ma per me personalmente è legato a un frammento appunto di vita. Era l'allegato a una rivista, si chiamava Quaderni Piacentini, degli anni 70, che era una rivista fondata da giovani intellettuali che si muovevano nell'area, diciamo, della sinistra extraparlamentare. Una parte di loro veniva da Lotta Continua. Il mio ricordo, in Lotta Continua, diciamo, è qualcosa che appunto in quegli anni, diciamo, era una discriminante, no? Tra chi faceva delle scelte estreme e chi invece cercava altre strade. Si era addirittura attivata una sorta di posta del cuore, no? Che per una rivista politica, per un quotidiano politico non era proprio facile da... Che poi trovò, invece era interessantissimo tra l'altro, no? Perché si parlava poi di questioni molto anche economiche, no? Cioè per venire alloggi, reddito di cittadinanza, allora si parlava di reddito universale o insomma di salario minimo, anche di queste cose, ma anche dei rapporti familiari. I rapporti con i propri genitori, con il proprio compagno, compagna. E questa cosa trasmigrò appunto poi da Lotta Continua in questa rivista che uscì per 3 anni con difficoltà, ma che davvero segnò, insomma, per me, credo per un paio di generazioni, un passaggio importante, perché il centro della riflessione era il privato e il politico. E io credo che questa... il succo di questa riflessione faccia, per esempio, proprio intrinsecamente parte del dispositivo Altofest. Cioè, le scelte che facciamo, anche quando sono scelte economiche, riguardano anche scelte personali, no? Quindi quando adesso cerco di farla brevissima, anche quando si fanno scelte alternative, fuori mercato, che apparentemente appunto magari non sembrerebbero sostenibili, sicuramente bisogna mettere sul piatto anche qualcosa di personale, delle rinunce. Ecco, su questo mi piacerebbe sentire il parere dei presenti. Magari seguiamo proprio un'ordine. Prego. No, magari mi sbaglio. Sinceramente non immaginavo una domanda del genere, che però è molto stimolante, cioè pensare a che cosa rappresenti rispetto alle proprie scelte di vita una rinuncia, no? È stimolante, perché devi immaginare quello che hai lasciato fuori come possibilità da quelle che sono le tue azioni, le tue scelte. Io mi sento una persona abbastanza privilegiata, perché faccio un lavoro che ho scelto, che non mi ha imposto nessuno, non vengo da una famiglia di teatranti o di operatori della cultura, quindi Credo anche che per la mia famiglia le mie scelte in qualche modo siano state una sorta di emancipazione in qualche modo, no? Vengo da un contesto dove ha ancora questo tipo di valore, la distanza che c'è tra le scelte professionali dei genitori, della famiglia e dei figli, quindi in termini di rinunce mi viene in mente questo, che in realtà non è una rinuncia, ma forse per loro, non tanto per me, è una conquista. Io ho scelto di vivere a Napoli perché è il contesto metropolitano più vicino al mio paese di origine, ed è il contesto che mi dà più possibilità di essere anche vicino, diciamo, alla mia storia personale, familiare. È la città dove in assoluto lavoro di meno, i miei rapporti professionali sono abbastanza, come dire, estesi. Insegno a Roma in Accademia alla Silvio D'Amico, gli artisti che rappresento sono un collettivo di Venezia, ho lavorato per anni con una compagnia di danza di Ravenna, e l'artista con cui ho lavorato di più in assoluto è napoletano ma vive a Berlino, quindi la mia scelta di vita rispetto a Napoli è stata qualcosa di estremamente personale, molto sentito, molto, cioè una volontà mia, ecco, che forse ha escluso anche probabilmente, no, per altri questa... Infatti è stato molto interessante sentire prima il giro di riflessioni degli artisti e dei donatori di spazio su questa cosa del dono. E devo dire la verità, ad esempio l'inquinamento acustico è una delle cose a cui neanche io mi sono ancora mai abituato, pur vivendo a Napoli da 18 anni. E quindi mi rendo conto che, insomma, per chi vive altri contesti, poi immaginando voi a Berlino, che invece da questo punto... No, però non è inquinata acusticamente. Cioè noi qui abbiamo proprio un problema che a cui va dato un nome e un cognome, diciamo, nel senso che è proprio inquinamento acustico. E insomma, e crea anche delle, e delle problematiche. Esatto. Esatto. Anche il lavoro proprio. Anche sul lavoro. Certo, certo, certo. Mi ricordo una volta ero al telefono con un collega a Parigi. E io gli dicevo, e lui diceva: vabbè, ma se sei per strada ti chiamo dopo. E io gli dicevo: no, sono in casa, non sono per strada. Perché dalla mia finestra entrano in continuazione le voci dalla città. Però ecco, questo non mi disturba, devo dire la verità. Tutte le volte che torno dai miei viaggi incontro sempre nella strada di casa qualcuno che mi dice esattamente quando sono partito, che mi dà il benvenuto, che mi chiede se ho il pane a casa, se ho fatto la spesa, cioè perché mi vedono che arrivo con le valigie. Quindi questa è una cosa un po', un siparietto che va avanti da qualche anno. E devo dire la verità, non credo che in nessun'altra città mi sarebbe capitato, quindi mi piace molto questo mio vivere la città, mi piace molto sentirmi napoletano, mi piace il fatto che comunque sono di fatto il motivo per cui molte persone che lavorano con me devono venire in città. Cioè, a volte sono costretta proprio a raggiungermi qui perché sto qui, e questa è una cosa che mi diverte abbastanza, perché poi invece spesso sono io che raggiungo gli altri. E, non so, io, come dire, ecco, forse anche rispetto al discorso dell'economia, eccetera, eccetera, le rinunce. Non lo so se è una cosa che è successa in un modo consapevole o no, però gli artisti con cui ho lavorato di più sono tutti artisti che hanno rifiutato il sostegno pubblico, cioè non hanno fatto domande agli enti per avere sostegno del loro lavoro, quindi parliamo del Ministero, del Fondo Unico per lo Spettacolo, cioè né con la Tella né con gli Anagor abbiamo mai fatto domanda, quindi noi, come dire, le economie sulle quali si sostenta il nostro lavoro sono le economie proprio di produzione e di vendita dei nostri spettacoli. E io in particolare mi occupo di questo, proprio di cercare i soldi per fare gli spettacoli e poi di venderli. E quindi molto spesso ci dicono anche che i nostri spettacoli costano tanto, proprio perché anche proprio nelle economie di vendita ci sono delle spese che storniamo lì. Poi tra l'altro la nostra compagnia ha un, come dire, è stata protagonista di uno un bellissimo processo di rigenerazione urbana che è legato ad un allevamento di conigli nella campagna trevigiana, quindi in provincia di Treviso, a Castelmino di Resana. Sono ormai 20 anni che loro hanno restaurato una vecchia fabbrica di conigli e riconvertito. E quindi quello è diventato il nostro atelier ed è uno spazio che produce anche quello delle economie, non solo economie materiali ma anche economie di scambio, cioè nel senso che molto spesso invitiamo delle compagnie ospiti a lavorare nel nostro spazio, dialoghiamo anche a livello produttivo, soprattutto con gli artisti più giovani, che magari appunto si pongono come riferimento rispetto a quel territorio, a quello spazio. E quindi le rinunce non sono mai solo delle rinunce. Ecco, questo forse per risponderti posso dire questo, sono anche delle conquiste. Cioè se ci sono delle cose che perdi, ci sono delle cose che guadagni. Non sempre chiaramente c'è un equilibrio tra queste cose, spesso... a volte prendi di più, a volte dai di più, però credo che sia anche importante, cioè è come una scelta, no? Rivendicare la responsabilità di una scelta, anche la rinuncia può essere una rivendicazione responsabile. Mi auguro che le mie siano così. Grazie. Continuiamo il giro o passiamo alla rappresentante femminile? Dunque, andiamo un po'. Stavo ragionando su come innestare, riuscire ad innestare tutta la storia un po' di Teatri di Vetro, tutto il suo percorso all'interno di Alto Fest, in qualche modo. Altrimenti, diciamo, mi faccio replicante di me stessa a ripetere, a riblaterare, e sempre diciamo più o meno la stessa narrazione. E la prima cosa sulle rinunce, io invece ho rinunciato a molte cose, al contrario di Michele. Io dico sempre, io sono un'attrice, un po' faccio il verso a Roberto Latini, però io lo ero veramente. E per tanto tempo ho insegnato recitazione, per tanto tempo ho fatto regia e poi è arrivato questo cataclisma che si chiama Teatri di Vetro. E Teatri di Vetro ha aperto una finestra sul mondo per me, che lavoravo in sala sulle cose mie, che vedevo i colleghi da semplice spettatrice, che insegnavo agli allievi, ma sempre avendo in mente le mie di estetiche, le mie poetiche, no? Anche se ho avuto la fortuna di avere delle metodologie alle spalle di quelle, proprio quelle del Novecento, tutte. Quindi Teatri di Vetro ha aperto una finestra sull'esterno. E quindi la prima connessione importante che mi veniva oggi, sentendo parlare artisti e ospiti, è proprio di quanto la relazione, se praticata fino in fondo, ti edifica, ti trasforma. E per me quella relazione, quella finestra aperta, che inizialmente è stato un monitoraggio, io volevo solo sapere quali altre compagnie, più o meno della mia generazione, si agitavano nell'underground romano. Questo volevo sapere. E ho fatto un monitoraggio cartaceo, un tomo, e lì però ho detto, porca miseria, ma siamo tantissimi, e la curiosità di voler andare a vedere, di voler entrare dentro quelle altre storie artistiche è stata, diciamo, la leva che ha portato. Ne passano una cifra? Ma ok. È stata la leva che ha innescato Teatri di Vetro. Cioè l'esigenza a quel punto di avere un luogo, uno spazio, anche se temporaneo, come un festival, che potesse in qualche modo rendere visibile quella generazione. Inizialmente è nato così. E poi negli anni, questo stiamo andando verso la 16ª edizione, negli anni chiaramente questa pratica di osservazione, di scambio, di curiosità, di, si è trasformata sempre di più in prossimità. Cioè io mi sono sempre di più avvicinata all'oggetto che osservavo, nel senso che inizialmente era un lavoro di programmazione e di, diciamo, trovare lo spazio giusto per la cosa, perché lavoravamo molto in urbano, stavamo in un quartiere a Garbatella, quindi nei lotti, quindi abbiamo lavorato negli spazi comuni, nei cortili, negli orti, nelle case private, anche lì. Quindi, diciamo, lì in quella fase lì c'era l'intenzione di trovare la cosa giusta per quello spazio. Lo spazio è, diciamo, una mia ossessione da sempre. E dopodiché però, piano piano, la distanza tra me e gli oggetti osservati appunto si andava riducendo, si è ridotta via via progressivamente. E senza appunto fare tutta la cronistoria di 16 anni, perché Anna mi mena, ce l'ho pure alle spalle. ad un certo punto, dopo una stagione un po' raminga, un po' veramente in giro per i vari teatri romani, diversi spazi romani, eccetera, mi sono chiesta in che modo potevo far sì che la curatela di un festival fosse della stessa materia dei suoi oggetti. Questa è stata la questione. Cioè che non ci fosse più una distanza sostanziale tra la curatela e gli oggetti artistici ospitati. Quella distanza che nel sistema si traduce in operatori culturali, cioè una verticalità che è inaccettabile. Una divisione del lavoro, una questione di ruoli, ma anche gli artisti ti trattano come un operatore se non sono in relazione, no? Perché è giusto, cioè è normale, il sistema porta a questa convenzione. Poi di fatto io volevo azzerare, da una parte disattivare il mio di potere come operatore, ma nello stesso tempo far avvicinare le due pratiche artistiche. E quindi ho posto una questione agli artisti a quel punto, cioè ho chiesto agli artisti di non presentarmi il loro spettacolo, un po', diciamo, in qualche modo, no? Fare in modo che la curatela sia produttrice di una contronarrazione, già per come si articola. E quindi ho chiesto agli artisti di interrogare insieme il processo di creazione. E quindi in questo momento Teatri di Vetro è una sorta di strano festival in cui tu spettatore puoi entrare in sala, perché comunque siamo a dicembre e a questo punto siamo a India, al Teatro India, e siamo al chiuso, perché a dicembre comunque è per forza così, ma puoi entrare in sala e indifferentemente quello che ti trovi davanti è un processo creativo in corso di creazione, una pratica di trasmissione, un primo nucleo di pensiero, uno spettacolo finito, uno spettacolo esploso, insomma, e tante altre varianti che dipendono dalle estetiche e dalle poetiche individuali degli artisti. Questo significa che chiaramente via via io non sono più un'attrice, non faccio più regia, e non per questo frequento meno la sala prove, anzi forse la frequento più ora, perché la frequento seguendo tutti questi processi durante l'arco di tutto l'anno. E non so se appunto è una vera e propria rinuncia, è una sorta di pensiero obliquo della vita che ti sposta. Di fatto la convivenza tra essere curatore e essere artista nel medesimo tempo per me era diventata impraticabile. cioè dovevo trovare un posizionamento, un punto da dove guardare, che non implicasse in nessun modo una sorta di conflitto interno, interiore, ineludibile, tra le mie di pratiche e quelle invece artistiche. Per cui via via tutta quella prima parte della mia vita è scivolata. Adesso paradossalmente riemerge, perché è chiaro che poi le rinunce non sono mai definitive, che è la cosa che più mi preoccupa. Mi piacerebbe ci fosse un definitivo della vita, invece non c'è. Quindi è chiaro che gli artisti con i quali collaborano poi mi chiamano a assolvere dei ruoli via via più centrali dentro la loro creazione. Però fino a che ce la faccio, resisto da questa parte. Io mi tacerei qua. Grazie. Ci sono tantissime cose da dire. questo parola economia è molto interessante, perché è una cosa schifo. Ha portato la morte a tanta gente. E allo stesso momento economia è la capacità di un attore o di una ballerina di usare il suo corpo, i suoi risorsi al massimo per avere un risultato più grande. Puoi dire che forse la povertà è l'economia più efficace. Se comincio dal punto di riferimento della mia vita personale e professionale, ho cominciato con il teatro professionale, con il Living Theater dagli Stati Uniti, dove sono stato con loro con 5 anni, sono stati anarchici, non abbiamo nessuno reddito, nessuno soldi, abbiamo avuto tantissimi soldi ogni tanto no, ma Judith Malina, la mia maestra, ha detto sempre, c'erano sempre 40-50 persone nella compagnia e non avevamo i soldi per 50 persone. Ma lei ha detto, ma il teatro che vedo è con 50 persone. Allora questo dobbiamo fare, i soldi arrivano più tardi. Quello modo di pensare radicalmente, abbiamo parlato una volta con Anna di quello, perché credo che lei è un po' la sorella di Judith Malina. Un fanatismo creativo. Credo sia un complimento. Sì, è veramente un complimento. Il mio lavoro secondo, quando io sono andato via dal Living Theatre, ho cominciato con un nuovo gruppo in Svezia. Svezia era un paese con tanti soldi per la cultura, anche negli anni 80, quando sono arrivato lì. Ma io, insieme con i miei amici, abbiamo fatto un collettivo, 14 persone, 6 bambini per 14 anni, nessuno reddito. Abbiamo usato quello che abbiamo bisogno e abbiamo lasciato nel conto corrente quello che non abbiamo bisogno adesso, perché faremo un spettacolo e abbiamo bisogno di risorse. Allora, noi siamo stati ricchi, ricchissimi dal punto di vista mio, ma senza reddito. Adesso non ho nessuna pensione quasi per questo. Ma quello di abitare, di lavorare insieme collettivamente era importantissimo nel processo, perché non c'era qualcuno che era pagato più, che aveva più anni di esperienza, uno è regista con il reddito doppio degli attori. Era veramente tutto che facciamo. Possiamo ricevere i soldi per fare le cose che noi vorremmo fare. E questo è perché era un collettivo di teatro all'inizio, di teatro per le strade. Teatro per le strade è molto interessante, perché teatro senza è una relazione onesta, offerta e ritorno. Io faccio, io chiedo e i soldi vengono. Se non vogliono pagare, vanno via. Se vogliono pagare perché non hanno molto soldi, lo pagano un po'. più grande, come si dice, loro che vanno per prendere i soldi con il cappello e sono stati i bambini, loro, i nostri bambini, loro, era incredibile. Ma quella relazione onesta è importantissimo, perché prima volta che avevo un reddito, dopo quasi 20 anni di lavoro in teatro, era quando io sono diventato il direttore del Teatro Nazionale a Svezia. Teatro Nazionale per girare. Abbiamo fatto una compagnia di immigranti. Abbiamo detto che era la prima compagnia svedese, veramente svedese, nella storia di Svezia, perché siamo stati 10 attori, 5 musicisti, un gruppo di tecnico così pagato dal Teatro Nazionale. E tutti loro non hanno avuto mai un lavoro in Svezia. Come immigranti non c'era, era un settore molto ethnically cleansed. Era impossibile di essere immigranti con accente e di lavorare nel teatro svedese in quello periodo. Dopo un anno, questa compagnia, che non avevano nessun lavoro prima, dopo un anno, perché avevano contratti che ho negoziato per 5 anni, dopo un anno hanno cominciato a parlare più come le attori svedesi che con una compagnia nuova. Vuoi dire quanti chilometri possiamo viaggiare senza di dormire una notte, quanti soldi abbiamo ogni giorno per, come si dice, per diem, diaria. E dopo un anno e mezzo, la fondazione di questa compagnia era distrutta. Non da me, non da nessuno, non era una scelta, ma è stato quello cambiamento per adattarsi alle istituzioni pubbliche. Vuol dire i soldi divengono reddito, una relazione oppressiva, e quello è l'istituzione pubblica, e quello è le possibilità che abbiamo per avere i risorsi per fare il nostro lavoro, ma i risorsi ci hanno distrutto. Prossima passo nella mia vita è stato da lavorare con grandi progetti, capitale culturale di Europa. Prima con i grandi progetti fatto dall'istituzione che ho creato dopo, che si chiama Intercult, e abbiamo fatto grandissimi con 5 milioni di euro ogni progetto. E da quello ai capitali culturali, prima la candidatura di Matera, dopo la candidatura direttore di programma a Rijeka, Fiume, 2020 e 21 a Timisoara, sono diventato direttore artistico. Questi grandi progetti non sono più progetti culturali, sono progetti politici, e quando ci sono soldi c'è la politica. Non c'è arte più. Allora tutto quello ha preso, non so, 15-20 anni per me di arrivare, ma adesso io sono arrivato al punto di vista, e per questo che siamo incontrati, credo. Sto ricercando l'intimità culturale. Dopo la pandemia, io sono stato a Timisoara, sono stato a Pisciotta, qui vicino, dove abito ogni tanto, ho una casa lì. È arrivata la pandemia, non posso tornare a Timisoara, sono rimasto lì, e dopo un po' di tempo ho pensato che questo così non si può fare. 50 milioni di euro durante 5 anni devono usare, ma non sanno come. È diventato un investimento strutturale invece di processo. E per me la cultura è il processo di imparare, di cambiarsi, di trasformarsi, di essere trasformato. Allora questa ricerca per l'intimità culturale ha preso due passi, due direzioni, una verso Africa, perché lì, quando sono stato in Africa le prime volte durante gli ultimi anni, in Etiopia, Senegal, Burkina Faso, Ghana, ho incontrato cultura dove è veramente cultura. Non è soldi, non è soldi. Sì, devono avere i soldi, molto di più. Non dico che povertà è bello, non è. Ma la cultura aveva un senso, era una necessità, non un modo di sopravvivere. E l'altro è a Pisciotta, questo piccolo paese, dove l'anno scorso, per ripartire dopo la pandemia, un piccolo paese di 2.500 persone, insieme con alcuni giovani di 28-30 anni che sono tornati perché non possono studiare all'università, sono stati lì a Pisciotta. Abbiamo cominciato un piccolo festivale che si chiama Pisciottarte. E Pisciottarte non abbiamo avuto nessuno soldi, niente. Abbiamo chiesto un po' ai ristoranti da dare un po' di così, ma era un sentimento, era come a tornare all'inizio del mio lavoro, della mia vita professionale. Facciamo perché deve essere fatto e dopo chiediamo come possiamo mangiare su quello lavoro. Quella ricerca per l'intimità culturale, voi usate anche il parola intimità. Questo è un parola importantissimo in questo mondo adesso, perché la grandezza ci soffoca. La grandezza ci soffoca. Dobbiamo avere questo. Questo è la grandezza di un'esperienza importante. Allora, l'economia è di non spendere i soldi. L'economia è di spendere l'energia. I soldi vengono più tardi. Grazie. Va bene, vai. Non sento più niente. But now, so I'm going to speak and then she's translate like a paragraph. Okay, then I'm just going to do it. So first of all, thanks for inviting me here. I'm just hearing, although through translation, but I've already learned a lot from the other speakers. And it's interesting that we're, just tell me when you want me to stop. Whenever you want to. Okay, so it's interesting that we're talking about this concept of economy of Autofest, and I want to talk about this from two perspectives. One is the emotional economy, and another is like the actual money economy. Ha detto grazie, già io sto provando a spiegare velocemente cosa state dicendo tutti. E volevo parlare di due discorsi di economia, quello che viene più è l'emozione e poi l'economia vera che viene con queste parti. Real economy. And you know, as he mentioned that economy is about what you offer and what you get. And for me, you know, the most impressive part of Autofest is that we are re-examining the human interaction in a more purposeful and conscious way, because now that the host and the artist come together, not just to meet each other for a day or an hour, they actually live with each other for like 2 weeks. That requires a lot of vulnerability from both parties. Con Autofest c'è tantissimo cambio, c'è tutto questo discorso di se dai qualcosa, forse c'è l'intenzione di prendere qualcosa indietro. L'hai detto sentendo le storie delle persone che sono o i performers o quelli con i padroni di casa, c'è questo cambio, è molto bello che c'è questa intimacy, so come si dire intimità, grazie, scusate, c'è questo tipo di intimità che non si vede più, e questo cambio di famiglia quasi, non è un, di un giorno, è una settimana, anche di più, e lei è molto interessata di questo. I think this, no, it's very important the word that she used, that is vulnerability. Ha parlato di vulnerabilità, because in Italian vulnerability is a very important word in the professional environment. Vulnerability, we never speak about vulnerability, non parliamo mai di vulnerabilità in un ambiente professionale, cosa che chiaramente invece fa parte della condivisione tra in due settimane tra sconosciuti. Si è vulnerabili perché si è esposti in Alto Fest, non ci si può nascondere. I really love your use of vulnerability, so thank you really. So you're a poet. Because as a host, you are opening up your home for a stranger, and as an artist, you are invading into another person's home, being a guest, and you need to be a bit careful all the time. And I think this human interaction, it's just in its nature economy, because you are basically making imprint into each other's life. Okay, c'è questa parte di essere un ospite, ma gli attori e questi tipi di persone è come un'invasione nella casa, e questo è anche un teoria di economia in che c'è questo cambio. Sì, I think this exchange part of it. Thank you, Elisa. Un applauso. No, yes. But sort of, it's really, we are in a family. So, in questa interazione nasce un'economia naturale, quindi quasi organica, potrei dire. Questa è la parola che può tradurre quello che ha detto Shani. And in this process, what is the role of art, right? So as I understand here, in the end, you know, art become a documentation of this whole process. But at the same time, you know, within this process, art become a sort of connection between the host and the artist to actually interact with each other. And quindi diciamo che l'opera d'arte, il processo artistico, diventa il vero meccanismo di connessione e anche di spostamento, diciamo così, di movimento in questa relazione tra ospiti e ospiti, perché in italiano ospiti e ospiti è la stessa parola, guest and host. So. And in modern time, as we already get used to this very fast and superficial interaction between humans through social media or other ways, this give us back the thought that, you know, art as this media that requires people to actually be more vulnerable, to open up, to have this fluidity, to have this ambiguity and unpredictability, and how that would influence the interaction between two humans. In questo mondo che va velocissimo, dove siamo ormai abituati a spendere le nostre presenze sui social media, quindi a perdere il peso dei nostri corpi e anche delle dei nostri pensieri, è tutto evanescente, siamo evanescenti. In questi progetti dove l'arte si fa medium delle relazioni tra persone, tra territori, quello che succede è che riprendiamo peso. È una mia libera interpretazione di quello che ha detto, anche per sintetizzare, diciamo, riprendiamo presenza tra di noi, ci riconosciamo, e questo può, in questo momento storico, secondo Shani, lo può l'arte. Cioè l'arte è un luogo, è un medium, ma è anche un luogo, diciamo, è come se fosse questo, come dire, come se fosse una navicella spaziale, it's like an enterprise shuttle. And I think the reason why I'm here, why AutoFest asked me to come here, is also because the project that I'm doing kind of goes with this same philosophy. So basically, back 4 years ago, I was visiting Mexico City. I have this question in mind: what is the meaning of life? And what I did ero in Messico molti anni fa e a un certo punto mi sono chiesta qual è il significato della vita. Is that just a small question, really? A small question. So what I did is I sit in front of the Museum of Frida Kahlo. I sit on the street, but I ask every strangers who pass by to come sit down together with me. They have to draw a picture to answer this question. What is the meaning of your life? Ero di fronte al quadro di Frida Kahlo e degli stranieri mi sedevano accanto per disegnare questo quadro e improvvisamente ho capito qual era il significato, il senso della vita. They are not artists, they are just ordinary people who have different strangers, occupations. She asked people to draw. Not me draw. Sorry. Correct me, please. We are in a conversation. Era di fronte a questo quadro di Frida Kahlo e ha chiesto ai passanti, alle persone che passavano di là, di sedersi accanto a lei e di disegnare chiedendosi qual era il senso della vita. I'm right? Thank you, Federico. And this is a simple but profound question, and the medium of art for ordinary people, not for you guys as artists, it's a very difficult one. They are not used to it because language is much easier, it's much logical, it's much more predictable. So the moment I hand over the drawing pen and the paper to them, it's very interesting because at the beginning they will always reject, oh, no, I can't draw. The last time I did was in kindergarten, blah, blah, blah. But in the end, if I insist, they actually start drawing. And I sat on the street for 3 hours. There were 70 people sat down and draw their life. Parto subito dalla fine dicendo che alla fine c'erano tantissime persone che poi hanno accettato di fare questa cosa, 70, ma che all'inizio tutti erano imbarazzati, si avevano dei problemi, si rifiutavano perché magari dicevano ho dei bambini lì da raggiungere o delle cose da fare e invece alla fine ha raggiunto questo numero di tante persone. Anche perché è difficile per qualcuno non usare il linguaggio, la parola, parlare semplicemente, ma esprimere questa domanda, questa richiesta che lei faceva attraverso il disegno. This really brings out a very honest and authentic conversation with two completely strangers between me, at that time between me and any person who was drawing. I think as one of the German artists boys, right? One said everyone is an artist. That's their way to bring out their creative energy. So what happened later is that year I traveled to 10 different countries. Wherever I go, I'll just sit on the street and then ask people to draw. But later, people who draw their life for me, they think this is a very meaningful, reflective experience. They will go back to their own neighborhood, sit on the street, ask more people to draw. Ok, come diceva Boyce, ognuno di noi è un artista e quello che lei ha raccolto da questa esperienza è che l'arte in questo caso si è fatto, è stato un driver, ha spinto la conversazione, cioè non era tanto importante che ci fosse un pezzo d'arte alla fine, ma che grazie a questa richiesta le conversazioni tra stranieri, tra persone, tra passanti iniziavano, quindi nascevano nuove relazioni. Questo sistema in 10 altri paesi e alla fine le persone che hanno fatto tutto questo disegno l'hanno riportato nei paesi di loro e hanno detto c'è questo cambio di cos'è the meaning of life, perché anche se è una domanda molto importante, sì, è come una cosa, lei ha detto che era come un riflesso che forse non avevano pensato per un po' di tempo cosa è importante nella vita. Quindi questa operazione ha ha divulgato questo pensiero, questo nuovo pensiero, l'ha portato in tutto il mondo, no? L'ha donato, no? You give this thought, new thought to people that drew with you. Yeah, so within a year, it goes with from one street experiment to actually 60 different countries. There were 20,000 people draw their life. We actually have a gallery online. You can see this by different city. And it really makes me think, what is the power of art? Because ordinarily, you wouldn't just talk to a stranger, ask this kind of very strange question in a very sudden way, you know, like, what is your meaning of life? But then with this weapon of art, you suddenly just make a very authentic connection with each other, with opening vulnerability, and yeah, that really strikes me a lot. Yeah. E semplicemente si conferma che la vastità del progetto che ha preso il progetto conferma come l'arte sia uno strumento. Shawnee ha detto arma. I don't want to say weapon, really, because in this time of war, maybe not, but a tool to connect people, for sure, but not just to connect people, maybe non è un solo uno strumento per connettere persone, ma in una via nuova. It's actually connecting, I think, outward with others, but mostly inward with yourself, because also, you know, I don't know here in Europe, in Italy, but I come from China, right? So in our generation, there is a huge problem of really defining who you are, finding your meaning, because, you know, in our parents' generation, they work to earn money to feed the family. And in our generation, we don't have this problem anymore. Then who are we? What are we working for? Nobody could answer this question because our parents also doesn't know, right? So, you know, like through school, through all the society, they tell you, you know, you just should do this, do that, because you earn money. You never find the answer. But through this reflective process, because I also talk to a lot of people who actually draw their life, it's not like, you know, when you start to draw, you suddenly get this enlightenment of what you're going to do, but you embark onto a journey through the medium of art, and I think that's just really beautiful. Yeah. Diceva che lei non sa qui in Occidente, ma in Cina, da dove lei è nata, c'è le giovani generazioni si chiedono chi sono, perché hanno raccolto un'eredità dai propri genitori del tutto pronto. Cioè, i loro genitori erano lavoratori, sapevano, costruivano, diciamo, la loro vita, sapevano cosa fare, e loro hanno raccolto un mondo già pronto, già instradato, già impacchettato, a packed world, maybe, from your parent, you mean, yes? E adesso la domanda grande è chi siamo? Quindi il progetto di cui parlava risponde anche ad una necessità di incontrare nell'altro se stesso, ok? Yes. And art also have this power of connecting outwards, because beauty, aesthetics, is something that beyond national border, beyond language, beyond religion, beyond everything else. And I remember once, you know, I went to Israel and Palestine. I asked those young people who, you know, they hate each other for centuries to draw their life. They have the same confusion. They have the same questions. They have the same, you know, need for love and for, you know, hope, etc. And then in the end, I think arts help us to bring out the commonality underneath the humanity, although we have so much difference and diversity. E chiaramente nello spazio dell'arte, che sia uno spazio immaginario, che sia uno spazio senza confini, quello che si incontra è un diverso familiare. Direi, faccio questa sintesi, nel senso che il diverso è familiare, perché la diversità nello spazio dell'arte è la familiarità. E questo l'ha potuto appurare andando, noi possiamo pensarlo anche semplicemente, andando in Israele, andando in Palestina, dove ha avuto la possibilità di parlare, chiedere agli israeliani, ai palestinesi, alcune domande, agli stessi giovani, e a queste domande di vita quotidiana, di vita comune, rispondevano la stessa cosa, avevano gli stessi bisogni, gli stessi sogni, le stesse necessità. E quindi diciamo che l'arte ci dà la possibilità di uscire fuori dagli schemi, e quindi di essere veramente ribelli, direi, insomma, in questo, per rispondere alla domanda di Maurizio. So I would also like invite here everybody to think about, you know, if you meet me on the street asking you this weird question, what would you draw? But going back to the economy topic, what I'm always thinking is, you know, as we said, everybody is artists, everybody have this creative side that they can bring out, they can provide value for other people as well, because when other people see your drawing, art kind of bring out your understanding of life, transcending time and space to another person to inspire each other. Yeah. And in that sense, I'm always thinking, you know, besides that we have this government funding and funding from the foundations, I think everybody, every ordinary consumer should be the one who both create and consume art. And in that sense, I think what a art or culture product is competing is not within the art community, but it's actually far beyond. For example, I think we're competing with, for example, games, the gaming industry, right? Because we are all, the young people, they are spending time there as well. But through that experience, yes, maybe they get some leisure time, but they are not having this reflective time. And I think art has as competitive, you know, this ability for them to enjoy and experience life much more than a product like game. Yeah. So I think in that sense, when we talk about economy here, how do we actually include the bigger community and make it a cultural product for everybody so they can actually enjoy it and they would love to pay it if this is a good product. Ha fatto uno switch bellissimo sull'ambiente economico. You switched really in a good way to the economics environment. All'inizio, allora, lei ha detto intanto in questi giorni vi incontrerà, vi chiederà di disegnare questo, di pensare, diciamo, al senso della vita, quindi aspettatevi, diciamo, di disegnare per lei. E poi di sorvolo diceva giustamente che l'arte in qualche modo fa parte della nostra esperienza quotidiana. I synthesize a little bit what you said. In realtà è già parte della nostra economia. Spesso se ne fa troppo un prodotto, nel senso che oggi in questa sfera dove tutto è prodotto, anche l'arte è ridotta a prodotto. Spesso il prodotto artistico, se è, diciamo, se ha una buona natura, aiuta anche ad avvicinare chi non ha un approccio, diciamo, di natura diversa, sentimentale, ma la cosa più importante è che avere la coscienza che l'arte è già nella nostra economia. Art is already in our economy. No? Because at the end of the day, I don't think there's any conflict between art and economy. I mean, everybody should be in this, because the thing is, if you never involve the ordinary people into this process, they will always be a bystander. They will never understand art, and they will never be able to actually support that in their own way. And that's it. Let's keep open this because I don't know. Okay. But okay. After, I want to give the floor to to Attilio ed Alessandra, che non è qui con noi, però insomma uno è Bino. Che posso rispondere? Diciamo che dico subito, faccio un po' un outing, perché sono un bocconiano, quindi io ho studiato economia a Bocconi. L'ho fatto però per la famiglia, principalmente perché non avevo altre possibilità, cioè nel senso la parte artistica non era contemplata nella maniera più assoluta, e quindi ho dovuto iscrivermi all'università, quella più eccellente, dove ero un pessimo ovviamente studente. E però è successo un fatto che per me appunto mi ha anche segnato, perché alla fine di tutto il processo, perché ho studiato tutti i 4 anni, me li sono fatti, ho fatto tutti gli esami più assurdi, ho voluto fare una tesi su cinema, che era la mia passione ed è anche la mia rinuncia in qualche modo, perché non ho fatto poi cinema. e quindi ho praticamente girato tutta l'università e venivo rimbalzato da tutti perché non trovavano un'affinità. Solo un giovane, diciamo, professore mi ha detto: guarda, io non posso prendere in carico questa tesi che vuoi fare, però potresti andare da il vertice, cioè proprio il più importante dei professori, che era Severino Salvemina ai tempi, e lui potrebbe accoglierla. E io ho detto, ma lui prende una media del 30 lode, quindi ho detto, io sono proprio tagliato fuori. E lui ha detto, ma prova. E così ho fatto, ho bussato alla porta del suo studio lunghe code e ho presentato la mia tesi ed è stata immediatamente accolta. Poi la prima domanda che mi ha fatto dopo aver letto tutto ha detto, la media? E io gli ho detto 24 e lui fa, cioè, è fuori dal mio raggio d'azione, ma devo prendere lo stesso perché mi interessa la tua, diciamo. E quindi ho capito che, come dire, seguire la passione era qualcosa che poteva, come dire, spaccare e andare. E quindi sì, sono stato seguito da Severino Salvemini, ho avuto una discussione di tesi dove lui mi ha alzato di 50.000 punti, cioè, quindi ero proprio uno dei più, come dire, coccolati. Tra l'altro lui era molto severo e con me non correggeva manco una riga, cioè io gli presentavo i capitoli. Vabbè, giusto, era giusto per anche un po'... però non sono un bravo economista, eppure in qualche modo poi abbiamo costruito un'economia con la nostra associazione, con la nostra realtà, una realtà artistica, quindi un po' mi ha risuonato tantissimo tante cose che sono state dette da Roberta, da tutti, un po' in qualche modo, come dire, hanno toccato dei temi. La questione della finestra, diciamo, spalancata sul fuori è il festival, nel senso arrivare a organizzare un festival era anche come compagnia poter stare molto a contatto con tutto quello che stava succedendo fuori. E infatti il festival è nato un po' così, cioè per come dire, raccogliere intorno una piccola comunità di artisti all'inizio almeno che avevamo incontrato nei giri che facevamo in Italia e poi si è evoluto il festival. Un po' la città di Milano ovviamente impatta in qualche modo sul festival perché comunque c'è stata una risonanza molto grossa a livello mediatico, un pubblico grosso, cioè un grande pubblico che arriva a seguirlo perché c'è tanto pubblico che segue, e poi essere artisti ha aiutato moltissimo l'evoluzione anche del festival, perché comunque essendo anche giovani, il festival adesso ha 24 anni, ci ha permesso un po' di come dire, cambiare il festival anche in base a come cambiavamo noi rispetto all'esperienza artistica che stavamo attraversando e ai gusti che cambiavano ovviamente, quindi si evolveva anche il festival. Ora, diciamo, proprio chiudo raccontandovi solo di questa sezione che si chiama Laterale e che è un po' stata anche un punto di connessione attraverso anche Giulio Sonno, che è lì presente, che è stato un po' il nostro mediatore, che ha fatto incontrare Roberta e Anna e Giovanni e noi, me, Attilio e Alessandro. E a Laterale è una sezione in cui noi chiediamo agli artisti, un po', diciamo, mi ripeto rispetto a quello che ha detto già Roberta, non vogliamo degli spettacoli, vogliamo che raccontino qualcosa che ha a che vedere con le loro ossessioni, con le loro anche le loro esperienze di vita, che però come dire, si connettano fortemente al fare artistico. E quindi comunque esporre dei materiali che stanno un po' dietro allo spettacolo o al fare spettacolo, a produrre. E quindi l'abbiamo chiamata Laterale proprio perché come dire, andava e c'è stata anche un po' contestata da Michele Di Stefano, che ha fatto pure lui parte, per dire che ma perché laterale? Perché laterale vuol dire essere un po' a margine, però noi volevamo dire è qualcosa di, come dire, di laterale ma fondante in qualche modo, non è lo spettacolo ma sta a lato eppure lo tiene in piedi. Come il pensiero laterale che a volte ti fa scegliere la strada giusta, infatti. E in sintesi quest'anno Laterale, che era comunque una sezione che si svolgeva in un giorno, ne prende tre del festival, che non è che abbia 18.000 giorni comunque, quindi diventa una sezione tutt'altro che laterale, con sei artisti dentro, dove ci sono anche Roberta, dove c'è anche Anna e Giovanni. E proprio questo ci ha fatto capire come appunto anche quella era una direzione che ci interessava particolarmente, molto più il festival è anche animato da spettacoli, da prodotti finiti, però lì sentiamo pulsare qualcosa, lì sentiamo veramente dopo tanti anni di nuovo che ritorna un entusiasmo che si era un po' perso nel tempo. Poi vabbè, una sola domanda, non c'entra niente, però me l'ha sollevata Michele, era a Napoli durante il discorso dell'inquinamento acustico, perché il Milano, che non è così, diciamo, silenziosa neanche lei, però quello che è accaduto nel lockdown, primo lockdown, è stato veramente il calare totale del silenzio. E quindi rimpossessarsi dei suoni della natura che erano praticamente assenti o comunque sono sommersi da... Quindi mi sono chiesto, perché Napoli lo conosco molto bene ed è anche adesso che sono arrivato da poco alla stazione, la prima cosa che mi ha colpito è stato subito il senso dell'udito, oltre che anche visivo, perché effettivamente anche l'impatto visivo è forte. No, com'era durante il lockdown seri a Napoli? Durante il lockdown, dal punto di vista sonoro? Io sono stato fortunatissimo perché il mio lockdown l'ho fatto un po' in Cilento, quindi vicino Pisciotta, Bello Sguardo. Esatto. E poi un po' a Venezia, a casa del mio compagno. E quindi in realtà sono stato veramente poco a Napoli in pandemia. Quindi forse Anna ci può dire. Io c'ero. Io c'ero. No, vabbè, era un film praticamente, perché c'era un silenzio tombale. E poi io e Giovanni siamo tra i pochi fortunati ad avere abbiamo un terrazzo, quindi diciamo la pandemia comunque non ce la siamo vissuta malissimo. Il lockdown e da Corso Umberto a un certo punto passavano queste camionette a disinfettare, cioè era veramente come stare in un film, c'era cioè, tutto silenzioso e poi come stare in cecità di Saramago a un certo punto, era un po' così. E poi l'incredibile rigore dei napoletani nel rispettare le regole. Cioè non c'era nessuno per strada davvero, cioè, perché tutti facevano la battuta, ma figurati a Napoli, ma tutti, cioè, voglio dire. Ma invece è stata una delle città che ha reagito in maniera più rigorosa in assoluto, e era un'altra Napoli, però posso anche dire una cosa, che Napoli è un'altra Napoli ogni giorno. Vabbè, io ho concluso. No, è la verità, perciò dicevo, nel senso che allora io intanto vabbè, nei prossimi giorni i nostri amici che ci hanno accompagnato in queste riflessioni meravigliose passeranno anche a vedere alcuni lavori, quindi ve li ritroverete. Se avete domande ulteriori rispetto a quello che hanno detto e ci hanno raccontato, riconosceteli e potrete insomma in qualche modo porgergli le vostre domande. E, grazie mille. Non è finita questa conversazione, come dicevo prima, nel senso nel continuare a rincontrarci nei prossimi giorni. Quello che ci siamo detti potrà continuare percorrendo le strade tra una casa e l'altra, percorrendo le strade di Napoli, fermandoci da show a Piazzetta Crociferi, che sarà il punto di incontro della comunità di sera, o al picnic alla WOSM, il centro di salute mentale, centro diurno, che quest'anno accoglie le voice over e poi anche Texture. Domani Texture ci sarà in una nuova versione, si continua noi a parlare domani, Texture Radio Chat. Quindi dovunque sarete vi potrete collegare dall'1:30 attraverso Telegram e quindi partecipare e continuare. Maurizio avrà preso degli appunti dai nostri amici e quindi domani ovviamente ci porrà ulteriori domande rispetto a quello che i nostri amici diciamo hanno detto. Volevo solo ringraziare davvero tutti anch'io, anche per aver raccontato la vostra, cioè proprio la vostra esperienza personale. È stato davvero molto interessante, mi hanno colpito molte cose. Tra l'altro io non sono un economista dello spettacolo, sai che in Bocconi adesso hanno attivato, ecco, no perché è andato avanti e adesso l'economia è più vicina al mondo. Comunque, a parte questa parentesi, vedi, ci abbiamo due bocconiani, vedi, quando non te l'aspetti uno si nasconde e l'altro no. Volevo esatto, ma sai quanti ce ne sono? No, mi è molto, insomma, in questo periodo ho comunque riflettuto sui modelli organizzativi, no? È interessante davvero che ognuno ha cercato una strada. Tu parlavi, no? La rinuncia è stata una conquista a volte anche il caso, secondo me, che poi gli incontri veramente laterali, gli stimoli da altre discipline, davvero, questo penso che sia valido per tutti. Mi ha molto colpito anche il tuo discorso, nel senso che una delle riflessioni che facevo con Claudia in questi mesi era appunto che ci vuole creatività anche nel mischiare i mestieri, no? Per far cadere. Tu hai attraversato questa fase e sei tornata, o meglio, ti sei poi fermata su un ruolo che non era il tuo inizialmente. Insomma, ci sto riflettendo, nel senso, forse se c'è un elemento unificante è che non c'è una regola, anche per trovarlo questo equilibrio, la dico male, qua ci sono due bocconiani, fra mercato e libertà creativa anche, no? Comunque libertà nelle scelte che fai. Cioè, una cosa solo aggiungo rispetto a questo, cioè io chiamo questa fase oscillazioni. Cioè non è, penso che noi ci diamo delle regole in arte e sulla scena, perché poi io quella conosco, essendoci cresciuta dentro praticamente, ma noi ci diamo delle regole per, all'inizio Chiara forse parlava di limiti, di confini, mi pare Chiara, sì. E noi ci diamo regole per diciamo accedere all'illimitato. Cioè il limite per noi sulla scena è l'accesso a ciò che non ha limite. Questa è la questione. L'oscillazione è qualcosa che è diciamo in un equilibrio precario, in un movimento che ha le sue regole, ma che comunque non crea stabilità, ma mette in uno stato continuo di, chiamiamola, scomodità o vulnerabilità, però sono tutti termini che attengono ad ambiti specifici, perché uno magari dice vulnerabilità, quindi la pensi sul piano psicologico, instabilità la pensi sul piano fisico, sul piano artistico tutti questi piani si intrecciano, e lo sono, sulla scena questi piani trovano il loro punto d'atterraggio, di caduta e di fusione. Quello è il luogo dell'irrazionale, in cui riemerge la parte irrazionale del nostro essere. E quindi la regola noi ce la diamo per entrare là, in quel mondo là. Sì, poi veramente diciamo domani abbiamo un tempo in un altro luogo, perché interessante è che come la conversazione, cambiando luogo non soltanto fisico ma anche spazio della riflessione, che è uno spazio della voce, cambia il linguaggio. Sarà interessante capire domani come si saranno depositate diciamo certe domande, certe questioni, e continuare. Quindi veramente grazie. Bellissimo, grazie a tutti. Abbiamo, come dire, ci siamo allungati tantissimo, ma d'altronde con tutto questo contenuto non potevamo fare altrimenti. Noi non ci risparmiamo, per restare nei termini dell'economia, diciamo così. Potremmo addirittura andare avanti tutta la notte, ma gli amici del Riot, Francesca e Guido, che approfitto per ringraziare, che amiamo proprio tantissimo, ci coccolano, ci permettono, condividono questa loro casa con noi, e noi ci sentiamo a casa ogni volta. Questa è una delle case, diciamo, di Altofest. Allora, adesso accade questa cosa, che congiunzione, allora intanto Ilaria sta continuando a disegnare tutte le nostre parole, i nostri pensieri, e adesso mano a mano cercheremo di attaccare anche al muro, se Ilaria è d'accordo, chiaramente, le cose che mano a mano ha prodotto le potremo attaccare e vedere. Lei continuerà imperterrita. Allora, in questo momento, diciamo, Claudia e Maurizio hanno tradotto questa loro ricerca in una pratica, prendendo ispirazione in realtà da una delle pratiche poetiche che Claudia Fabris porta in giro da tantissimi anni, che si chiama la cameriera di poesia. Chi di voi ha avuto la fortuna di incrociare il servizio poetico della cameriera di poesia, sia qui ad Altofest ma in giro per l'Italia, insomma, quindi Claudia per fortuna viaggia tantissimo, insomma, con questo piccolo spazio poetico, piccolo inteso intimo, intimo spazio poetico, non piccolo nel senso di grandezza. E allora hanno pensato bene di prendere ispirazione da quella da quel meccanismo, da quella struttura e dal lavoro che Claudia fa sulle parole, e che sulle parole sottosale, così le appella, le chiama, che ha anche depositato in un libro. Non faccio la promozione, ma è semplicemente per dire che la potrete incontrare in tante altre forme, la nostra Fabris, oggi in uno schermo, ma poi insomma più in là. Oggi aleggio. Oggi aleggia, ma più in là magari dal vivo. Però ecco, questa loro ricerca sull'economia dell'Altofest, hanno fatto il tentativo di tradurla in una pratica poetica, ispirandosi a quello che già Claudia fa, con le parole e con la voce e col dialoghi e con il mondo, diciamo, della riflessione poetica. Quindi vi lascerei godere anche ascoltando, alzandovi, non so, diciamo, godere di questo luogo, e lascio anche la parola a Claudia, che magari vuole dirci due cose. Sì, allora, siccome immagino che siate stanchi anche di stare seduti, e siccome questa è una cosa che si ascolta fondamentalmente, se volete ogni tanto alzarvi, spostarvi, ascoltarlo d'empio, non serve che rimaniate nella situazione in cui siete. La cameriera di poesia di solito è in cuffia. In questo caso abbiamo trasformato tante cose e abbiamo contrattato tante cose, io e Maurizio, veramente tante. È un super esperimento, perché per questioni familiari gravi io oggi sono dovuta correre al capezzale di una persona e sono tornata 5 minuti prima della diretta, quindi non siamo neanche riusciti a provare veramente. Solo una notazione di servizio, dura 5 ore. Sì. Esatto, quindi potete a un certo punto alzare, se io vedo un po' di mani alzate, anzi se Maurizio conta più di... Quanti siete adesso? Ditemi quanti siete. Siamo abbastanza, siamo almeno tipo... una trentina, una quarantina. Vabbè. Una trentina. Più di tra i 30 e i 40, Claudia. Tra i 30 e i 40. Allora, se Maurizio vede più di 12-13 mani alzate, io vado ai liquori, perché l'ultima parte di questo menù sono i liquori. Quindi se crollate a un certo punto, io taglio. Se no, ve lo godete tutto. Vediamo. Siamo quasi 50, ci dicono dalla regia. 44 gatti. Quasi 50. Fila per tre. Allora, quasi 50. Va bene, allora, quindi io direi di iniziare. Cosa dici, Maurizio? Sei d'accordo? Sì, sì, sì. Sei d'accordo, benissimo. Può darsi che ci siano, può darsi che questa sia un'italiana proprio per chi si occupa di teatro, quindi potrebbero esserci di qualche inceppo, qualche cosa, ma inizio. Si intitola Se ti dico economia. Benvenuti alla prima rubrica della cameriera di poesia in prosa sull'economia, a cura della cameriera Claudia Fabris e del professore Maurizio Alampi. È pensata come una trasmissione radiofonica notturna, di quelle che vanno in onda da mezzanotte in poi e magari ti traghettano verso l'alba. Chiediamo la clemenza del pubblico, come nelle migliori tradizioni di teatro ed economia. Partiamo con una pillola di Pina Lanna, la nostra ospite. La sua risposta alla domanda con cui abbiamo tormentato chiunque ci abbia incrociato negli ultimi tempi. Se ti dico economia. Ecco. Per esempio. Allora, c'è qualche problema d'audio? Un attimo. Allora. Per l'appunto non abbiamo fatto prove tecniche. Sì, esattamente, tecniche pochissime. Allora, un attimo, riprovo. Partiamo con una pillola di Pina Lanna. La nostra ospite, la sua risposta alla domanda con cui abbiamo tormentato chiunque ci abbia crociato negli ultimi tempi. Se ti dico economia, tu mi dici? Una definizione. Una volta leggevo, cioè una volta insomma, mio marito comprò un libro di Eugenio Scalfari, là, che era, e insomma lo leggeva così e io non capivo niente, c'è cioè, questo libro, era merda, era un santo, era un santo, però mi, non so quale concetto stesse esprimendo, e a me piacque molto la definizione di economia dell'esistenza, la vedevo proprio bene, e quindi nell'economia della mia esistenza, come dire, cioè la mia esistenza è fatta sì di parametri, di riferimenti, però se ci sta, se nell'economia della mia esistenza entra qualcosa che veramente mi fa crescere, o che mi rende più ricca, non lo so, in questo senso la posso prendere come significato, altrimenti va via, cioè altrimenti questa cosa in maniera quasi drastica ce la devi togliere, non la devi fare, non la devi vivere, non ci devi avere a che fare. Quindi è questa l'economia della mia esistenza, quello che è produttivo per il mio, adesso si usano pure parole di produzione, è produttivo per il mio benessere, è produttivo per la mia conoscenza, è produttivo per la mia crescita personale. In congresso, 4 luglio 1776, proclamazione della dichiarazione di indipendenza americana. Noi riteniamo che sono per se stesse evidenti queste verità. Che tutti gli uomini sono creati eguali, che essi sono dal creatore dotati di certi inalienabili diritti, che tra questi diritti sono la vita, la libertà e il perseguimento della felicità, che per garantire questi diritti sono istituiti tra gli uomini governi che derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati, che ogni qualvolta una qualsiasi forma di governo tende a negare questi fini, il popolo ha diritto di mutarla o abolirla e di istituire un nuovo governo fondato su tali principi e di organizzarne i poteri nella forma che sembri al popolo meglio atta a procurare la sua sicurezza e la sua felicità. Nel 1776 Benjamin Franklin inviò la bozza della Dichiarazione di Indipendenza americana al filosofo napoletano Gaetano Filangieri, che sostituì l'espressione proposta di diritto alla proprietà con quella poi accolta di diritto alla felicità. Filangieri nel 1780, con l'opera La scienza della legislazione, scrisse che nel progresso concreto del sistema di leggi sta il progredire della felicità nazionale, il cui conseguimento è il vero fine del governo. che lo consegue non genericamente, ma come somma di felicità dei singoli individui. Nel 1974, l'economista Richard Easterlin, con il paradosso della felicità, analizza il rapporto tra la felicità individuale e la ricchezza. Il risultato dell'analisi mostra che oltre una certa soglia, a maggior ricchezza, corrisponde inaspettatamente una riduzione della felicità. Una delle macro conclusioni sembra essere quindi che ricchezza o utilità e felicità non sono la medesima cosa, perché per essere più felici non basta aumentare l'utilità, prodotti, beni, servizi, bensì, almeno in maniera prevalente, è necessario addentrarsi nella sfera della relazione con le persone. E ora la felicità nelle parole sottosale della cameriera. Felicità, condizione di chi è felice. Felice dal greco phio, produco, faccio, essere, genero, da cui hanno origine anche i termini fecondo e feto. Pare dunque che la felicità sia sostanzialmente la condizione di chi sa generare, di chi sa far nascere, di chi sa creare, produrre, che condurre avanti. C'è un movimento nella felicità che va dall'interno verso l'esterno, dal presente al futuro. Non si tratta dunque di un appagamento per un desiderio soddisfatto, non si risolve nel possesso di qualcosa. La felicità è un processo che nasce dalla relazione con l'invisibile, con la magia della creazione. E pare che i più felici, data la sua etimologia, dovrebbero essere i genitori, i contadini e decisamente, decisamente gli artisti. Ecco, e a questo proposito sentiamo l'altra clip di Pina, cosa ci dice su Filangieri, che forse ci fa arrivare anche un po' più vicini al nostro tempo. Il racconto rispetto a Filangieri, come è nato, cioè come si annodano dei figli? Era più o meno l'anno, gli anni che vanno dal 2009 al 2012, e sapevamo che Gerardo Marotta, appunto l'avvocato filosofico che abita, che sta nel Palazzo Serra di Cassano, che è un altro simbolo della rivoluzione napoletana del 1799, perché Serra di Cassano chiuse il palazzo perché gli uccisero il figlio, fu fra i decapitati, fu fra i martiri. Per cui chiuse la porta che dava sulla città, ecco, proprio come il segno che si ritirava, insomma, rispetto ad una città che non, che aveva, vabbè, che non comprendeva quell'utopia. Allora mio marito era molto interessato, pure io, ad ascoltare l'avvocato Gerardo Marotta, che parlò, non mi ricordo proprio l'argomento quale fosse, e ovviamente si ritrovò a parlare della rivoluzione napoletana, e poi c'erano degli attori che leggevano dei testi di vari autori, tra i quali mi colpì molto un testo letto da questo attore, che era un testo preso da Filangieri, ecco, e non mi ricordo, era tratto da Scienza della legislazione, e parlava, quel testo parlava della felicità in genere, però non so quale parte in particolare, cioè, lo trovai interessantissimo. Ma questo perché? Perché era un periodo che io, era il periodo in cui nella realtà di quel momento, per esempio, io seguivo delle notizie che venivano dall'America, di quel movimento che era Occupy Wall Street, Occupy Wall Street, quindi che nacque dopo la crisi finanziaria del 2008, un po' diciamo con articoli di giornale, con alcuni personaggi, seguivo un po' questa utopia, questi argomenti che loro tiravano fuori. E pur senza aver letto chi fosse il teorico del movimento di Occupy Wall Street, io trovai che prende quelle parole di Filangieri, bellissime, cioè dicevo, oddio, guarda, questi di Occupy Wall Street hanno copiato Filangieri. Cioè, senza saperlo, hanno trovato ispirazione, e non veniva certamente citato Filangieri. Cioè, io trovai questo nesso bellissimo, forte, fra quello che secoli fa aveva detto Filangieri ed era quello che poi veniva perorato in questo movimento. E quindi, quando tornai a casa, mi misi a cercare su Google Libri, là, insomma, trovai dei testi scansionati da Google antichi, di scienza della legislazione, e non lo lessi tutto, sia chiaro, però leggevo solo alcuni passaggi, e mi affascinava il passaggio nel quale, per esempio, lui parlava che bisogna vivere, di quello che veramente uno ha bisogno e mai del superfluo. C'era questo concetto, quindi mi sembrò proprio modernissimo, affascinante, e che quindi lo ritrovavo, diciamo, un po' in questo movimento di Occupy Wall Street, che era l'utopia del momento, perché sono le utopie che ogni tanto sorgono e poi vanno, cioè restano, diciamo, ritornano pure, cioè restano nel sotterraneo. Professore, non vorrebbe adesso raccontarci a questo punto qualcosa in più di Filangieri? Sì, posso anche andare a braccio, che ne dice un pochino? Ma ben volentieri. Filangieri, ne abbiamo parlato all'inizio, insieme ad altri pensatori, in particolare Antonio Genovesi, che era l'economista, Filangieri era un giurista, però diciamo facevano parte di un movimento che ha reso la campagna in quel periodo davvero una campagna Felix. Praticamente dialogavano Napoli ed Edimburgo, perché le novità venivano da Napoli e dalla Scozia. C'era un tentativo di proporre una modernizzazione dello Stato, dei rapporti feudali, dei rapporti tra cittadini e governo. E questi principi, diciamo, è durato una quarantina d'anni, poi col 1789, ovviamente l'anno della Rivoluzione Francese, il fatto che Maria Antonietta, la sorella di Carolina, moglie di Ferdinando, fosse stata decapitata, non giovò alla causa. E quindi questo movimento un po' si spense nel favore, però si riaccese, come ricordava Pina, con la rivoluzione del 1799, che non è un fatto che sta nel passato, sta anche nel presente. Non so se avete sentito che proprio due giorni fa c'è stata una contestazione di una statua dedicata a Ferdinando, a San Leucio, e che insomma, quelli che ancora guardano a quella Repubblica come a un faro, a un tentativo di civilizzazione, hanno ritenuto offensivo verso la coscienza civica che dovremmo avere anche come cittadini di questo tempo. Insomma, comunque, quella rivoluzione poi è riemersa negli anni, adesso non la voglio fare lunga, non è durata molto, però ha continuato a brillare, ecco, direi così. Adesso io ho una piccola sorpresa per lei, visto che la conosco. E faccio un invito all'uditorio, che se per caso volesse, potrebbe mettersi a canticchiare ad un certo punto. Contre le nom de la tyrannie, le tendant sanglant élevé, le tendant le tendant élevé. Si sente un po' piano. Si sente piano? Sì, si intuisce più che... Ecco. Ma... Non so... Ma... Che sangue più a breve non si... Scusate, una cosa tecnica, si sentiva piano anche prima? Cioè tutto sì, si è sentito piano? Si sente piano, non so se è una questione di collegamento. Sì? Allora sono io. È sordo, sono professore. Io. Professore è sordo. È che sono abituato a sentirla tutta a volume. Ho capito. Perché, vabbè, qui lui doveva canticchiare, immaginatela, che doveva canticchiare e farsi prendere un po' sul finale, però quando il volume è basso non viene. Quindi, Ho anche canticchiato. Hai canticchiato, canticchiato. Va bene, ma non ci sentiamo, no. Allora, Professore, immaginavo conoscendola che non avrebbe resistito alla Marsigliese. Vogliamo mettere a parte i nostri ospiti della sua vera passione, del suo vero amore? Sì, vabbè, passione non saprei perché, come dicevi tu, non passa. Ma viene da lontano comunque. Sì, lo posso ammettere, amo Napoleone. Tra l'altro non l'ho mai detto così in pubblico, ma neanche in privato, cioè a casa mi vergogno un po'. E quindi ho sempre usato frasi tipo amo quel periodo di così intensi cambiamenti, ma la verità era l'altra. E tra l'altro, se ci penso, francamente, è lo stesso che ho fatto un po' con l'idea di comunismo. E perché anche mai? Anche quando era passato un po', diciamo, dalla sua fase eroica. Beh, e perché mai? Perché, insomma, mi è sempre sembrato doveroso sottolineare anche gli aspetti effettivamente inaccettabili sia del suddetto che appunto del secondo. Sì, però in effetti uno la propria donna l'ama anche se piena di difetti. Questo è un bell'accostamento in effetti. E tra l'altro non ci siamo, adesso mi sembra un riferimento opportuno, allontanati tanto neanche da quel concetto di felicità di Filangeri e Benjamin Franklin che tu hai letto all'inizio. In che senso? Nel senso che ogni concetto effettivamente ha due facce, soprattutto quando è così pesante storicamente. E bisogna prestare attenzione quindi a come li maneggi questi concetti. Per esempio, aver inserito tra i diritti costituzionali, come è successo negli Stati Uniti, quello di perseguire la propria felicità, ha paradossalmente quasi generato a lunga distanza, come vediamo oggi, più infelicità che felicità. Perseguite la vostra felicità. Ecco, negli ultimi 40 anni questa invocazione, tra l'altro, si è saldata con un'altra retorica, quella della meritocrazia. Per cui gran parte della popolazione è convinta che se non hai successo non vali niente, per la società e agli occhi degli altri. E questo genera profonda infelicità, perché noi esseri umani, tra l'altro per dirla come Aristotele, siamo inevitabilmente animali sociali e una delle cose che ci rende sempre infelici è il giudizio negativo dei nostri simili. Il risultato è che uno, oltre a considerarsi un fallito perché non riesce a ottenere il successo sociale, si sente pure in colpa per non aver esercitato, per sua incapacità, un diritto costituzionale. In questa società, dopo 250 anni dall'approvazione di quella Costituzione, io direi quasi che dovremmo avere il diritto costituzionale di fallire, felicemente. Ma perché non parte? Non ci partono le clip musicali. Sì, e questo è veramente il diritto all'infelicità. Un diritto all'infelicità, voi tenete il diritto all'infelicità, io non capisco. Felicemente, felicemente. Vabbè, allora si ascolta tutta perché non posso tagliarla, vai. Niente, no. Niente, cioè è disto. È infelice, è proprio un'esecuzione infelice. È distorto, ma allora c'è un problema di mixer, ragazzi. Non so. Giovanni. Io cosa vi devo dire a voi? Prima si sentiva bene, è successo qualcosa? Ciao. Vabbè, allora, veramente fate finire. Neanche un'italiana, non so cos'è, però va bene. Allora, adesso a questo punto, e non ci faremo veramente spaventare perché oggi è successo di tutto, la cameriera vi servirà la sua definizione di fallimento. Fallimento, l'azione del fallire. Fallire, modo di essere e agire che nasce in fallo. Se il fare si coniuga all'imperativo, diventa un ordine inesorabile ed è molto probabile che ovvi un fallimento, almeno in Italia. Imparare a fallire con grazia è la rivelazione a somma del fare, il suo regalo. Elimina l'ansiosa aspettativa del successo, restituendo libertà e piacere all'agire. Nel fallo maschile che cresce e si solleva sfidando la gravità, fallire diventa l'inevitabile ricaduta al termine di ogni erotica impresa, che ridimensiona ogni misura e rilassa ogni audace erezione. E l'uomo sa quanto la preoccupazione per un fallimento prematuro possa rovinare il piacere dell'atto, rendendolo talvolta inaccessibile. Potrebbe essere la più preziosa sapienza del fare fallire, almeno per ora, in questo mondo. Accettarlo e festeggiarlo sa trasformare ogni fallimento in abbondanza. Samuel Beckett, in versi memorabili, diceva: Ever tried, ever failed. No matter, try again. Fail again, fail better. Ho sempre tentato, ho sempre fallito. Non discutere, prova ancora, fallisci ancora, fallisci meglio. Questa è una clip che abbiamo rubato ad un amico che è lì con voi, a Giovanni Passarielli. Applauso per Reventivo. I miei occhi. No, mamma. Una volta un mio amico mi disse, guardandomi negli occhi, che anche quando ci si innamora, ci si innamora nel capitalismo. Che anche quando ci si innamora, ci si guardando negli occhi, nel capitalismo. Che anche quando ci si innamora, guardandomi negli occhi. Una volta un mio amico mi disse, ci si innamora nel capitalismo. Guardandomi negli occhi, nel capitalismo. Nel capitalismo. Ci si innamora nel capitalismo. Allora, vi leggo la definizione di capitalismo, sempre della cameriera, e poi passo ai liquori, perché questa serata è veramente, credo che sia arrivata alla sua fine. Allora, capitalismo. Caput in latino significa capo. Il capitalismo potrebbe dunque essere la religione del capo, la sua ideologia, la sua esaltazione, quella particolare forma mentis che considera il capo assai più importante di ogni altra parte del corpo e della società. Forma mentis assai cara a tutti noi occidentali che per formare nuovi esseri umani, nonostante il nome ci suggerisca che la nostra identità la teniamo per l'appunto tra le mani, li costringiamo a rimanere immobili per anni dietro ad un banco, in una scuola, per coltivare la loro mente, il loro capo. Ma proviamo onestamente ad immaginare come starebbe la nostra vita senza piedi, braccia e mani. Quali soluzioni la mente potrebbe adottare per farci camminare, correre, danzare, accarezzare? E soprattutto cosa capirebbe del mondo e della vita la mente senza nessuna estetica, senza nessuna informazione e percezione dei sensi? Il problema vero del capitalismo è che ce l'abbiamo tutti in corpo, da molto, moltissimo tempo, e poi inevitabilmente si riflette nel mondo. Ogni volta che diamo maggiore importanza alla mente piuttosto che al corpo e al cuore, ogni volta che li usiamo per i nostri scopi, senza prestare ascolto alle loro esigenze, alla loro intelligenza come tiranni, ci comportiamo da perfetti capitalisti che consumano tutto senza grazia e considerano i capi più importanti dei braccianti e i generali più importanti dei fanti. Vi servo questi liquorini per chiudere. I liquori sono la cosa che servo sempre alla fine della cameriera di poesia. Il primo è di Tonino Guerra, la farfalla. Contento, proprio contento. Lo sono stato molte volte nella vita, ma più di tutte quando mi hanno liberato in Germania, che mi sono messo a guardare una farfalla senza la voglia di mangiarla. Un brandy spagnolo di Picasso. Quando non ho più blu, metto del rosso. Di Nina Ferrari. Immaginate che te regalan una macchina para hacer magia. Y vos la usas para colgar ropa. Bueno, con el cuerpo pasa lo mismo. Immaginate che vi regalino una macchina per fare magie e voi la usate per appenderci dei vestiti. Molto bene, con il corpo accade proprio questo. She was not fragile like a flower. She was fragile like a bomb. Hiraul Singh. Lei non era fragile come un fiore, lei era fragile come una bomba. Una grappa di Guido Celli. Un giornalista chiese un giorno ad un poeta: se casa sua dovesse prendere fuoco, cosa salverebbe? Il poeta rispose: il fuoco. Una vodka di Jack Folla. Un uomo solo che guarda il muro è un uomo solo, ma due uomini che guardano il muro è il principio di un'evasione. E per chiudere, due versi di Paolo Maria Cristalli, un amaro abruzzese. La poesia lascia il tempo che trova e ne cerca un altro. Siamo... Adesso sembra Star Wars, eh? Stai... Veramente? L'imperatrice della galassia centrale. Ci puoi dare un messaggio? Finale? Mi do un messaggio finale. Sì, aspetta, no, ve lo do certo. Eccolo qui, ce l'ho. Io spero che si senta bene, ragazzi, però questo veramente... Vabbè, spero si senta bene. È un messaggio finale da Star Wars. È il capitalismo stesso a essere profondamente e irriducibilmente bipolare, periodicamente oscillante tra stati di eccitazione incontrollata, esuberanza irrazionale delle bolle e crolli depressivi. L'espressione depressione economica non è evidentemente casuale. Il capitalismo nutre e riproduce i timori della popolazione a un livello che nessun altro sistema sociale ha mai sfiorato. Senza delirio e senza fiducia in se stesso, non saprebbe proprio come funzionare. È il capitalismo stesso a essere profondamente e irriducibilmente bipolare, periodicamente oscillante tra stati di eccitazione incontrollata, esuberanza irrazionale delle bolle e crolli depressivi. L'espressione depressione economica non è evidentemente casuale. Il capitalismo nutre e riproduce gli umori della popolazione a un livello che nessun altro sistema sociale ha mai sfiorato. Senza delirio e senza fiducia in se stesso, non saprebbe proprio come funzionare. È il capitalismo stesso a essere profondamente e irriducibilmente bipolare, periodicamente oscillante tra stati di eccitazione incontrollata. L'esuberanza irrazionale delle bolle e crolli depressivi. L'espressione depressione economica non è evidentemente casuale. Il capitalismo nutre e riproduce gli umori della popolazione a un livello che nessun altro sistema sociale ha mai sfiorato. Senza delirio e senza fiducia in se stesso, non saprebbe proprio come funzionare. Adesso, per chiudere, che non lasciarvi nell'abbandono di questo, vi dico la parola ribellarsi, è la parola che avete nominato, l'economia ribelli. Ribellarsi, tornare al bello, ritrovare la propria naturale bellezza. PS, se non genera bellezza, non è vera ribellione. Aggiungo solo una piccola cosa, allora un ringraziamento a Giovanni e Antonio con i quali abbiamo parlato intensamente del libro di Mark Fisher, era lui Realismo capitalista, un libro chiave per comprendere i nostri anni, e ne avremmo voluto parlare più a lungo, parlare e rappresentarlo, ma insomma non mancherà l'occasione perché è un lavoro in progress. Grandi Antonio e Giovanni. Okay, grazie per questa lunga resistenza di questa giornata di discussione intensa, e però ci piace sempre iniziare con quello che crediamo sia la cosa più importante di Alto Fest, l'incontro. E poi sarà tutta una festa per 4 giorni, quindi buon Alto Fest a tutti, grazie a tutti.